Davvero? Ok, capo, lo so meglio. Va bene. Benvenuti al secondo episodio dei Capricci del Fato, cari amici del podcast e di Facebook. Giocheremo al gioco inventato da Claudio Serena di Fumble, Clotes, o Clothes, no, Clotes. E questo è il secondo episodio, si chiama Casualità. Noi non abbiamo una vera e propria sigla per questa cosa, per cui faremo partire una musica a caso, sotto la quale Catta ci farà un bel riassunto. Oh, è stato ormai diverso tempo fa che giocavamo con altra gente, tipo Arci. Esatto. E la nostra storia è iniziata in questa sperduta città del sud del continente, nel Sud Dakota, no? Dove frotte di pellegrini e gli andanti si prodigavano per avere udienza presso i vari saggi come si chiamano, quelli che usano la divinazione, Vidi, no, dei, no, beh, no, divinatori, oracoli, oracoli, bravo. gli oracoli Facciamo anche un corso di. esatto. E abbiamo trovato questa città, oltre che piena di sporcizia, anche piena di questi cultisti che predicavano la fine del mondo tramite questa entità oscura, innominabile, che dovrà, la È notte eterna, che dovrà vero, simpaticissima. Io com'è che la divorare chiamavo però? tutto. La notte buia, La notte no? buia, la notte oscura. La notte oscura. Beh, è oscura però. E quindi abbiamo fatto loro conoscenza. Gente molto cordiale che ci ha prontamente accolto tra i propri ranghi e ci siamo lasciati confidare, diciamo così, la locazione della sede di questo culto, questa specie di torre magica che appariva soltanto in un certo punto della foresta, in un certo momento della notte o comunque bisognava essere a conoscenza del modo di farla apparire per vederla. E una volta lì abbiamo fatto la conoscenza di questi due sgherri pesantemente armati del culto, un po' meno simpatici degli altri, ma che ovviamente non ci hanno dato filo da torcere perché siamo troppo forti. Perché questo gioco è buggato, eh? No, volevo dire. Perché siamo troppo bravi. Probabilmente erano degli sgherri di bassa estrazione, probabilmente dobbiamo ancora incontrare i pezzi grossi. E ci eravamo lasciati in questa radura dove era apparsa questa torre. Ah, sì, che volevate. No, abbiamo sconfitto la torre, cioè Sì. abbiamo aperto la torre. E dovevamo entrarci. No, Siamo siete entrati e entrati. siete andati nel sotterraneo dove. Abbiamo avuto la rivelazione. Questa visione faceva vago, forse un vago riferimento a voi e a altre cose. No, un chiaro riferimento, c'era la mia pipa. No, Una pipa, cioè. era una pipa che faceva robe assurde, quindi era la mia Vabbè, pipa. magari ci sono delle No, altre no, no, era cose. chiaro che ero io, che risolvevo tutto, poi forse c'era anche qualcun altro. Una spada spezzata, un libro, Okay. No, non avevo assolutamente un ricordo di queste cose. Bene, per fortuna Comunque che già dormivi a abbiamo tardi per fatto, te. forse. Va Molto bene. bene. Spegniamo questa Musica. musica La così sorpresa. Con aleatoriamente. cui ci banneranno per diritti. Per copyright, Ma va, esatto. senti anche. Va bene. Questo era è stato il primo episodio dei Capricci del Fato. E ricordiamo un po' i nostri personaggi per chi se li fosse perse. Io mi chiamo Dalbiron e sono un elfo cantastorie. Sono un affabulatore e fondamentalmente sparo cazzate e la gente però mi deve credere perché il gioco funziona così. No, scherzo. Io invece sono Barbara la Barbara, venuta da una feroce tribù del crudele nord del continente e sono scesa in queste terre in cerca di vendetta per quello che una volta era mio e mi è stato tolto, ovvero il diritto di succedere a quello che era il re del clan, ovvero mio padre, che è stato spodestato. Penso a potere. No, non voleva una barbara a potere. No, questi maschilisti. E va bene, questo era Enrico Cattabriga col suo personaggio. Prima sono stato io, Andrea Giacomecchi col mio. Il master è Giulio Bosi. In collegamento da Marsiglia abbiamo Edoardo Salladini, che forse ci farà un recap su qual era esattamente il suo personaggio, se ha voglia. Allora io niente, ho deciso di giocare un personaggio totalmente diverso dal solito. Totalmente. E quindi ero molto indeciso se fare qualcosa di totalmente estremo e opposto a quello che faccio di solito. E alla fine ho scelto il saggio. Quindi ha scelto il solito personaggio. Tra l'altro, quello che in realtà se la tira di brutto, ma appena può smazza un po' di colpi a caso. Se la tira di brutto, senza apparente motivo. Se la tira di brutto, P, e ogni tanto gli schizza la vena. Però sì. Ultimo forse, soprattutto cerca il modo per cui gli possa schizzare la vena. Vabbè, quello è ultimo, la nostra interpretazione è sbagliata, unico esemplare della sua specie. Memphis ha 213 anni e è alto tipo un metro e qualcosa. E molto magrolino, ma in fondo la sua arma migliore è l'intelligenza. In fondo. E basta. Beh, quindi fondamentalmente io sono quello che sa cose nella distribuzione. Sì. Sì, alla fine in effetti noi siamo creati così più o meno come parti, cioè quello che parla, quello che sa e quello che picchia. Ed è quello che abbiamo fatto nel primo episodio, più o meno. Va bene. Adesso lascerei la parola a Giulio, che ci dice cosa sta succedendo in questo cantino. Serial killer. Serial killer. Mi sa che è quello che commentava anche a Fumble, no? Una volta. Che cazzo è serial killer? Non so, su Twitter ha scritto dove ha la cosa, al tweet in cui dice... Cosa vuol dire dove? Ah, non saprei. A Bologna. No, dove forse vuole sapere dove lo facciamo vedere. Devo fargli il corso di Facebook. Incaglielo, Vez, cazzo. È complicato, ragazzi. Volete che io sappia anche queste cose. A parte che... glielo link. Vabbè, mentre Giulio spiega, glielo linka. Copia link. Ecco, aspetta, ce l'ho. Allora, cosa devo fare? Devo rispondere, aspetta. Dici che il tuo computer game fa vedere il video a scatti? No, allora, il video è a scatti, purtroppo. Vez. Allora, digli dove in podcast, va. Aspetta. Live. Su Facebook. Cazzo, non c'è il codice, vabbè. Su Facebook. Va bene, Giulio, intanto introduci, cioè descrivi, cioè quello che fai. Io sono il master. Canta, mi diceva la degli. Ecco. Come è angolo Catta risponde. Niente, allora voi siete nel sotterraneo di questa torre. Avete appena avuto questa visione, una rivelazione. Sta a voi, fate. Noi però siamo stati solo nel sotterraneo, giusto? Sì, nella parte centrale nel sotterraneo, cioè nella stanza centrale nel sotterraneo. E abbiamo avuto questa visione qua. Beh, siamo un momento abbacinati, io dico, grande saggio, grande poi, insomma. Vabbè, saggio. Grazie. E, secondo te, cioè questa roba qua, cosa vuol dire? cioè mi sembrava le gesta di un grande eroe e qualcun altro al suo fianco che portavano finalmente la pace nella galassia. Volevo dire, scusa, ho sbagliato il gioco, ma la pace nel regno. Vedi, hai intuito bene, mio caro Dalbiron, questo grande eroe, anche se molto basso. So che il tuo sapere sarà anche grande, ma la tua memoria non tanto. Hai intuito bene, mio caro Dalbiron, questo grandissimo eroe, anche se non troppo alto, è accompagnato da due... Solo di un'altezza adatta alla mia razza, insomma. Sarà accompagnato da due schiavi, un elfo e uno schiavo barbaro, verso la vittoria. Scherzi a parte, saggio, secondo te questo cosa vuol dire? Cioè, cosa significa tutto quello che abbiamo visto? Cioè, intanto avete visto le stesse cose che ho visto io? Pipa, libro, la spada rossa. Slip che non avrei mai voluto vedere, enormi, non stavano all'interno dell'inquadratura. Beh, a me sembra chiaro. Grazie, Barba. Ascolta, credo di aver visto un enorme masso da spostare in fondo alla stanza. Ora, mentre io parlo con Memphis, tu puoi fare quello se vuoi. Hai ragione. Non c'è un enorme masso. No, non l'ho detto convincente. Barbara, vediamo se hai capito. Ti ascolto, piccoletto. No, hai detto vediamo, se hai capito. Vediamo se hai capito. Ah sì, pensavo volessi ripetere, ok. Beh, chiaramente un riferimento al fatto che dobbiamo andare a nord a sconfiggere il malvagio Re Cremisi e riprenderci la mia tribù. Credo che quello che dice Barbara abbia assolutamente senso, ma si può aprire anche ad altre interpretazioni, giusto? Mi sembra un'ottima idea, Barbara, per quello la prima cosa da fare è spostare quel masso laggiù. Non vedo nessun masso, ma se ne sei convinto tu. E, detto questo, sì, probabilmente si tratta di una profezia e sì, tirerei su sapienza. Okay. Ma ho una domanda, volete i dadi virtuali o no? Come vuoi. No, tira, che sono prego. Se volete vi condivido. L'hai condiviso? Sì. No, aspetta che devo allargare allora. Aspetta. Dovete sapere, per chi ci guarda per la prima volta, cioè probabilmente nessuno, che da Marsiglia Sala sta utilizzando un'applicazione che si chiama Dice Roller, creata da Jacopo Ameli, ma che non è disponibile per Android. Vabbè, è scritta in Java, dai. Ma è disponibile se siete un Java. Su. Ultimi! Va bene, però mi dovete dire cosa tirare perché... Ora quando lui avrà il D6, mi sa, no? Il D6, sono solo D6. Esatto, quando avrà settato il D6... L'ho settato il D6, ora devo tirare il D6? Vedremo voi con una lag clamorosa sul vostro schermo. Ho fatto uno! Apparire un 1 più, ma più cosa? Più 5. Questa app fa spesso 1. Sventura, come cazzo si chiama? Fallisci è una sciagura. Sì. Ma è vero, anche la sciagura. Che spasso. Ma la sciagura non mi ricordo più com'era, però. La sciagura è il contrario del punto fatto. Ok, grazie. Non mi risolvi del tutto il dubbio, ma grazie di averci provato. Quando fai 6 su un tiro tieni un punto fatto, il punto fatto poi lo puoi spendere per far tipo quelli di Star Wars. Ah sì, sì, sì, il plot, tipo plot point, ok. Sì, ma anche un bomb. Sì, giusto. Abbiamo ancora quelli delle sessioni precedenti o se no? No, ne avete. Le sciagure invece le uso io. Io ne ho un punto fatto e una sciagura, fra parentesi. Io 2 punti fatti. Le sciagure invece le uso io allo stesso modo. Ora ho una bellissima sciagura e mi sa che non ho capito un cazzo da profezia, tra l'altro. Secondo te aveva ragione Barbara quando diceva che bisognava andare secondo te, a trovare un orso e prendere la pelliccia? No, raga, siete seri? Cioè, allora lo devo fare anch'io, allora, un tiro. No, no, abbiamo perché già capito. Perché ora sono grande come tutto lo schermo, Ben? Sì, sì, no, ma sotto sei già tornato normale nella mia versione. Okay. No, così semplice, cioè, mi sembra. Non, non sei così sicuro che la cosa indichi voi, perché di spade spezzate ne esistono un sacco. È di pipe ugualmente, ma non di pipe così. Cioè, è vero, secondo me si tratta di eroi 5. Del passato. Posso tirare anch'io? Allora, se faccio 5 col dado, aggiungo sapienza, che è 2, giusto? Mm-hmm. 7. Okay. Beh, è sicuramente meglio di uno. Adesso non so. No, è 7 è un successo. Se non fa 7, giusto. È... quindi so tutto. Rega, no, non è il cavaliere Cremisi. Non è... boom, è arrivato l'elfo. Sì, infatti, Memphis, lasciamolo qua. Andiamo a nord. Non ho ancora detto nulla perché no. Il master non mi ha ancora detto niente. Però. Tu pensi? Io penso che, che sia una buona idea andare a nord. Questo anche, ma. Nel tuo girovagare, nelle tue storie sì. Che hai raccolto, molte storie iniziano con un gruppo di eroi che ricevono una visione che un po' segna il loro destino, sì. Cioè gli indicano una strada. Tuttavia, questa strada, no, beh, sai che comunque dovrete andare veramente a nord, non dal Re Cremisi, ma come anche ti ricordi, eravate riusciti a ottenere informazioni dai sì. Recisi, c'erano delle armate di barbari che stavano radunando a nord. Beh, allora, intanto mi sorprendo della tua arguzia, saggio, piccolo saggio. Ti ho detto di andare a nord, tu cosa dici? No, in realtà è su... adesso l'hai un po' ritratta. Dillo allora, prima tu. Intanto forse Barbara era più impegnata a tracannare boccali di idromele che ascoltare le storie che venivano raccontate nelle taverne, ma e tu forse è un po' troppo giovane per ricordarti le storie. Cosa hai detto, scusa? No, eri troppo giovane quando ascoltavi le storie, quando potevi ancora sentire dalle tue orecchie. Esatto, no, te lo ripeto più forte, eri troppo giovane. Comunque, dovete sapere che molte storie iniziano proprio con delle visioni, quindi perché questa non potrebbe essere la nostra visione che ci indica un chiaro, cioè al momento fumoso, ma prima o poi chiaro, percorso per svolgere la nostra avventura, quella che darà un senso a tutte le nostre esistenze. Andare a nord, e darà una spiegazione al fatto esatto. Perché un robino così piccolo sia ancora vivo dopo 1.000.000.000 di anni. Sì, sarà nascosto in qualche buco. Bene, ragazzi. Ora cosa facciamo? Come, scusa? No, no, ma non parlavo di te, buon Memphis. Parlavo del cervello di... volevo dire... sarà nascosto in qualche buco. Andiamo... dunque, direi che... quale che sia la nostra interpretazione, sempre andare a nord può essere una buona idea. Ma ho forse... un'intuizione, però. Potremmo cercare altre cose all'interno di questa torre, per esempio. Stavo per dire la stessa cosa. Stavo per dire che, secondo me, il nostro dio e narratore e tessitore ci sta traviando per evitare che noi esploriamo una torre che lui non ha mai creato. Come non l'ho mai creata? L'ho creata benissimo. Cioè, il sotterraneo, il piano terra... E piano basta, terra. È un muro che chiude tutto. E sopra sono tanti mattoni. Andiamo al piano superiore, quindi uscite. No, Giulio, andiamo al piano... Che porta all'uscita. Che porta all'uscita. Ok, no, e vabbè, diamo una rapida occhiata e poi... Qui non c'è nient'altro. No, c'erano dei bracieri, un altare dove c'era quella palla in cui avete visto la visione. La palla la si può prendere? Potrò darsi. Prova a toccare la palla. 20 danni. A me sei morto. È in bilico. È in bilico. Mi sento un po' in bilico. No, non c'è niente. E quindi la posso prendere? Sì. Sì? Ah, di vetro. Grande saggio, forse questa ti sarà d'aiuto. E, non ho capito che cos'è. Cioè, alla fine racconto una storia già successa, una cosa già vissuta. È grande come la testa di... Ma tipo sono così. A sparo in faccia, sparo in faccia. E non credo di essere adatto a tenere questo oggetto. Ce la portiamo dietro o la lasciamo qua? E, portiamocela dietro. Va però bene. Non io. Tieni Barbara. No. Tu sembri la persona più adatta a tenere cose che è troppo pesano. Leggera, non ci posso neanche fare esercizi. Perfetto, non usavo per fare medica. Esercizi allora. No, non serve a niente. Una palla medica. In realtà. No, riponilo con cura nel tuo zaino. Si fracasserebbe contro tutte i pesi di Ghisa, le mie arci. È fortemente ispirata. È un tributo ad arci. No, la Ghisa ancora non l'hanno inventato. Barbara, senso vivere in questo mondo. La Ghisa dell'Ottocento. Cioè. Se lo dite voi, cervelloni. Che sapete cos'è? Allora, aspetta. Eliminiamo questo cibo. Ok, niente, torniamo su e proviamo a salire. Probabilmente dei pesi di piombo, perché non sapevano che era tossico. E probabilmente perché è così stupido e bello. Vabbè, ma morirai tra qualche anno, non su. No, l'hai messa dal lato sbagliato. Si è macchiato qualcosa. No, non ti ricordo. Quindi salite al piano superiore. E saliamo al piano qua? Sì, diamo un occhio. Sbirciamo se un altro. Oppure Barbara potrebbe andare avanti. Io non sono il ladro in questa compagnia ed è inutile che mi atteggi da ladro. Sì, vado avanti. Sperando di trovare gli oggetti che valga la pena sollevare. Nel piano superiore. Questo sì che è un obiettivo di vita valido. Al piano superiore ci sono alcune armi nelle rastrelliere, è una sorta di scranno al centro della sala. Ispeziono le armi. Sono armi. Cioè, normali. Sì, ma alcune hanno qualche cesellatura particolare, facce di demoni piuttosto che di teschi, così. La fattura è simile per tutte o sembrano provenire da posti diversi? No, cioè probabilmente sono state fatte alcune anche in epoche differenti, però. Ok. Va bene, mi avvicino allo scranno. Ok. È una sedia massiccia, molto massiccia, nera. Tanto massiccia. Cos'è? C'è una sala sopra? C'è una sedia massiccia. Ah, prova a sollevarla. Eccola! Per vedere se posso fare. Il personaggio è ispirato a darci un tributo. Faccio casino, sollevo le cose. Ma questo peso! Riesco a sollevarlo? Di gol. Vai. 4 più 5 9. No, perché è molto pesante. Sì, tanto già. Per fortuna, cominciavo a dubitare delle mie capacità. C'è qualcosa sotto? Un po' di polvere accumulata negli anni. Non c'è niente di interessante e lo tiro via. Cos'è che stai tirando, scusa? Boh, una grossa sedia di legno a quanto pare. Sì, legno massiccio. Bene, la scaravento in un angolo si rompe? Sì, cioè si scheggia, una parte magari si piega, si rompe anche, però non va a mille pezzi come lanciare una sedia. Ok. Non sembra. Bene, qui non c'è niente di interessante. Un tonfo sordo. Quindi c'è la sedia e altre, scusate che... Le armi delle rastrelliere. Ah, le armi non ti piacciono? Beh, non sono, non sono abbastanza grosse e pesanti da quello che ho capito. A meno che non ce ne sia qualcuna particolarmente bella o particolarmente possente. Un'ascia di quelle belle imponenti e pesanti. No, sono gli spadoni e le spade, delle asce, ma non, non i penni, delle asce. Ci sono dei giavellotti? No, giavellotti no. Peccato. Delle asce da lancio? Asce da lancio no. Armi da lancio non ce ne sono. Tutte okay. Armi da qualche cosa. Purtroppo c'è poca roba qua. Non so se volete dare un occhio voi, ma penso che mi siederò in un angolo. Questa è l'unica stanza della torre, non si va più su. Non si va più su. Ta ta ta. Quanto è alta la torre? È invisibile. 6 metri. 6 metri, due piani da 3 metri. Fico. Ma quindi c'è la nostra sensazione che qua ci fosse quelli che sono usciti di fatto. Capisco. E non mangiavano e non dormivano. Forse no. Questa cosa è strana. Ma Memphis, dimmi, forse dimmi. È il caso di distruggere questo luogo, se è possibile, no? Tu. Bello. È un sì o un no? Sai come farlo? Scusa, questo è il centro dove la gente si riunisce e poi va a distruggere porta disgrazie. No, questa era la torre dove c'era questo cavaliere. Cioè, se ti ricordi, noi sapevamo che qua, quando c'era... Cavaliere di Atropes. C'era qualcosa, si attivava, a quanto pare, sta torre e uscivano fuori sti qua. E quando la torre compariva, portava disgrazia, esatto. Rovina. Stavolta, non lo so se abbiamo il potere di... Cosa? Stavolta ha portato disgrazia e rovina per se stessa invece che per gli altri. Ok, e non so se abbiamo il potere di distruggerla, possiamo provarci? Distruggere? Ecco. Sono interessato. Sapevo io che... Magari forse con qualche incantesimo potremmo provare a... E è troppo grande per... No, tipo a scacciare la sua presenza. Cioè se usciamo magari ne scacceremo la sua presenza se riusciremo. Oppure no, la lasciamo qua e fanculo. io non riesco purtroppo, però non so se avete qualche idea. Probabilmente potremmo provare a far crollare l'ingresso. Potremmo provare a far crollare l'ingresso. Mi piace come parli, piccoletto. C'è un martello in questa stanza. Dopo che siamo usciti, Barbara. Dopo che siamo usciti. Ops. Ma se noi... raccogliessimo un po' di queste armi per rivenderle, per fare un po' di soldi per andare a nord. Sembrano delle cose preziose. Le armi sicuramente che non puoi trovare in mano un popolano, ma neanche una milizia di una città. Ma sì, cioè. Però forse potremmo rivenderle a tipo anche solo ai... Sono preziose, non sono oggetti... abbiamo un carretto, intanto tiriamole giù. Dico, i recisi, si capisce che sono di un... possono essere collegate a qualcosa di... La maggior parte ha delle cesellature che comunque ricordano passi di demoni, teschi, cose così. Allora scusa, proviamo a portarle dai recisi. Diciamo che questo è il loro, diciamo, il dono da parte dei cavalieri, insomma, abbiamo trovato queste armi. Che la torre ci è apparsa. Ora però se l'effettivamente diventa un dono non possiamo rivenderle. Ottimo osservazione. Va bene, dai, però non stiamo a perdere tempo su queste cose che il mondo sta per finire, cioè la lunga notte, la buia notte sta per arrivare. Giusto, buia. Buia. Quindi direi di muoverci e a incamminarci verso nord dal capo di Barbara. Mm-hmm. Era quello il piano, no? Esatto. Beh. Direi che andiamo a nord e poi insomma se troviamo gli amici di Barbara bene, ma non stiamo poi non dobbiamo decidere tutto adesso, insomma. Ah ok, beh, mi sembra un'ottima strategia. Va bene, carichiamo le armi e okay. la palla. E per il resto niente, salutiamo questa torre. Arrivederci, grazie. Provo a far crollare l'ingresso con una delle mazze che abbiamo trovato. 4 e 5, 9. Danneggi una pietra. Ottimo. Continuo. 7. Mi scappisci un'altra. Bene, aspetta, provo ad aiutarti io con la mia magia. Chiedo, anzi, mischio un po' di polveri che saranno esplosivi, ma non lo diciamo ai babbani. E provo a usare. Che cazzo abilità avevo io? Tipo scienza, qualcosa del genere. E se voglio sfidare il fatto, lo devo dire adesso o dopo? Dopo non è un problema. Ok, quindi tiro 2 di 6 e scegli il più alto. Ok, ho fatto con 1 1 e con 1 5. Immagino che tu prenda il 5. Prenderò il 5 e tiro su sapienza, immagino. Sì. E quindi 10. Okay. E poi per sfidare il fatto devo tirare un altro di 6, no? Sì. Ok. E con i due dadi li ha fatti perché ha usato il punto fatto o perché era sua scuola? Sua scuola, giusto? Ok, con l'altro di 6 ho fatto 4. Che mi sa che non è abbastanza, perché mi sa che è 5 o 6. 5 o 6. Ok, quindi niente, provo a farlo comunque. Non abbia anche abilità o non abbia due specializzazioni che si possono applicare a... No, ne ho solo una, alchimia. Ho scordato le cose di base. Anzi, no, scusa. Io usavo illusione. Però è successo lo stesso. Ma la cosa avrò fatto, tipo una piccola esplosione. Mischi le polveri. Becchi anche, diciamo, il punto dell'architrave. Mm-hmm. E che fai crollare una piccola sezione di muro dall'entrata. Cioè, fai crollare un po' l'entrata. Vedi, non sempre servono i muscoli. Oh, un piccolino. Io non capisco. Molto, molto bene. Bravo, Memphis. Anche se forse hai tolto un po' il divertimento a Barbara. Sembra abbastanza contrariato. Oh, mi stavo divertendo. Vabbè. Barbara, divertito. Dopo che avete perso portare le armi, avete dato smazzolato un po' le rocce e poi fatto esplodere, e notate che sentite poi un po' di rumore che viene dalla foresta. Che genere di rumore? Stai crepiamo. Voci. Per lo più. Che alcune dicono: ehi, no, guardate, cosa è successo? Com'è possibile? Abbiamo compagnie, sì, dico, per osservare prudenza. Sì. Non ricordo bene, sì. Quattro più tre, sette. C'è un drappello di persone più o meno ormai nella zona in cui avete sconfitto i due cavalieri e sicuramente li hanno sentito. Ah, perché qualcuno ha fatto esplodere. E... ma ok, vedo un po' come sono vestiti. È notte. Ah, è notte ancora. Ok. E ci hanno sentito, però non ci hanno visto, quindi forse. E bene, direi che può essere un buon momento. Hanno qualche fiaccola, però non che vedi bene. No, ci sta. Però dalle voci diciamo che ci sta che siano dei non cultisti, ma dei recisi o qualcosa del genere. E bene, direi che possiamo o spostarci, tipo nasconderci, oppure li affrontiamo e li affabuliamo. Però sembrano abbastanza. No, io mi nasconderei. Sì, potremmo anche fare... sì, nascondiamoci e poi magari provo a fare un incantesimo di quelli classici che facevo l'altra volta. Anche perché o Barbara ci assicura che li può uccidere tutti, oppure mi sa che... Magari provo a fargli tipo un mega teschione che gli dice andate via da questo luogo sacro, qualcosa del genere. Sì. Va bene, prova a fare l'incantesimone. Ok. È l'illusione. No, come si dice, ammagliamento, no? E praticamente appare questa teschio con serpenti che escono dalla bocca, proprio tetro, che gli dice voi non dovreste essere qui adesso, questo è un luogo sacro. Tornate quando sarete più degni, con voce altisonante. Che gli incantesimi puoi fare a una persona. Se vuoi ampliare, devi usare punti fato. Ok, e uso il mio punto fato allora. Ci sta. E adesso tiro, giusto? Mm-hmm. Devo tirarne due, perché è la mia scuola? Sì. Ammagliamento. Tutte e due 4, quindi... 4 più ascendente, quindi 9. Vuoi sfidare il fato? Se sfido il fato, cosa succede? Che puoi ottenere altri cioè cose positive, mi pare. Sei addizionale, se ottieni 5 o 6 hai un punto fato, se ottieni 1 o 2 una sciagura. Vai, proviamo. 3, quindi niente. Allora, due detizie del gruppetto si bloccano e si inchinano, mentre gli altri iniziano a parlare tra di loro. Cosa fate? Perché? Vabbè, direi che è comunque un buon momento per diciamo, levarsi dalle balle. Ok, fatemi una prova di prudenza. Ale, 1! Grande! Allora, sciagura assicurata. Io ho fatto 6. Ora ho 2 sciagure. Ok, vi vedo. Non avete sentito il teschio? Andarlo. Un battimento. Dai. Beh, cazzo. Io ho fatto tutto il giochino, ho fatto 9. Non pensavo che tutti dicessero, ah, magari, è chiaro, no? Soprattutto perché dovrebbero attaccarci, siamo dei loro, no? È vero, perché dovrebbero attaccarci? Bravo, Kat, brava Barbara. Sto che vi allontanate, uno fa, cosa fate? Chi siete? Vai, Vez, è il tuo momento. Calmi, fratelli. Siete stati voi ad uccidere... I cavalieri? No, quello è solo uno. I cavalieri. Non avremmo mai potuto. Tra l'altro uno è morto tipo inginocchiato. Sì, mio signore. Ecco una morte onorevole. È vero. No, purtroppo siamo arrivati troppo tardi. Uno strano personaggio su un cavallo bianco è stato qui. E ha fatto di questo posto una mezza rovina. Noi siamo venuti qua solo per... abbiamo cercato di prendere quello che era possibile dalla torre per una volta in rovina per portarla a voi. e poterci vendicare, andare tutti insieme alla ricerca di questo oscuro figuro, o meglio, lucente figuro. Lurido 6 più 5, 11. Mi hanno detto. È anche un punto fato? 6? Vediamo se sarebbe un punto. Bene, fa bene. Vedo un 6. Ma dovrebbero avere un... un 5 per cavarselo. No, non è vero. No, vabbè, alla fine basta che faccio un... cioè, non è una prova contrapposta. E uno dice, ma come? Non è vero! Ho visto prima il bagliore, c'eravate voi vicino alla torre. L'esplosione! Però solo uno, gli altri ti hanno preso. Gli altri 5. Cos'è questa puzza di bruciato? Non esce dal sciocco. Come avremmo potuto. Venite, fratelli, presto, armatevi. Andiamo, spargiamoci e andiamo alla ricerca di questo cavaliere. Che la deve pagarla per quello che ha fatto. Beh, gli incitò alla violenza. Forza, compagni. Stai mentendo, elfo. Elfo, stai mentendo. Elfo, anch'io. Stai dando del bugiardo al mio amico, Intimidire, per il quale ho... oh, bravo. La specializzazione doppio 5. Intimidire, oh? No, che cosa devo usare? Ascendente, ho 3. Dipende 8. Da come specializzazione. No, però aspetta un attimo, perché hai tirati 2? Perché ho intimidire come specializzazione. E tipo, se prendi una spada e gliela pieghi. Poi ah, quindi io ne potevo tirare 2 prima, cioè, perché era da girare. Ho detto in maniera minacciosa, stai dando del bugiardo al mio quindi. Amico. Lui. E lo no. Guardo in maniera molto ottimo. Allora alla pugna, e gli altri 4 alla pugna. Sì, verso nord, anzi verso sud, poi facciamo finta di camminare tipo sul posto. Morta, noi siamo un po' più lenti, ma vi raggiungeremo. Vendetta, vendetta. Abbiamo il carretto parcheggiato laggiù, un attimo solo. E che faccia manovra. Forza, forza, dividiamoci, dividiamoci. Saremo più forti divisi. Cosa hanno scoperto i cavalieri, dovremmo restare uniti. Sì, ma dobbiamo beccarlo. È uno, gli altri chiameranno gli altri una volta che l'avranno trovato. Ma mi raccomando, non dobbiamo farci scoprire. Quindi finché non l'avete trovato, non crolla. Secret, secret. Va bene. Va bene. Quindi loro cosa vanno? Tipo all'assalto? Vabbè, noi potremmo stare con loro per un po' e poi... sì, sì. Vanno, iniziano a pattugliare gli intorni della foresta. Vabbè, anche noi diciamo... bene, seguiremo questa pista. Voi, mi raccomando, state attenti sugli altri lati. Intanto potrebbe io prendo, essere... vado sul carretto e prendo appunti mentre spero che loro mi trasportino in giro. Ma ricordate, fratelli, la notte è nostra amica e ci proteggerà. E poi quindi niente, non accendete le torce. Quindi non accendete le torce. Vabbè, a questo punto potremmo partire direttamente, direi. Sì, cioè, fate, guidate voi, io vi guido. Anch'io sono sul carretto. Forza, Barbara, portaci da questo inseguitore, da questo cavaliere. Il cavaliere c'è o non c'è? Non so se si vede. No, non si vede, Dio buono. Non so che cazzo. Vabbè, ve lo manderò. Ma il disegno, eh? È un disegno? Sì, è un disegno. No, perché... ho visto tipo la nostra immagine. No. Però su... boh, su WAP. No, beh, finisco. WAP. In realtà, sì, se tu fai un disegno, volendo, ci dovrebbe essere un modo per... ah, beh, potresti condividerlo a schermo. Ma non è lo stesso computer. Vabbè, non è un problema. Te lo mandi. Va bene. Dopo questo summit di tecnologia... no, posso fare così per farvelo vedere al volo. Guidati dalla sapiente Barbara, ci dirigiamo verso nord, in modo un po' così camuffoso. Vedi, cioè noi siamo armati proprio. Allora, io vedo tipo delle robe arcobaleno. Sì, c'è un carretto dove ci sei tu e davanti c'è qualcosa di grosso che tira. Esatto. E io non ci sono. Sì, sei di fianco. Non l'ho visto. Va bene. Va bene. Allora ci dirigiamo verso nord. Mm-hmm. Dov'è la mappa? Allora, noi eravamo al Tempio dei Tessitori? Sì, andavi vicino alla foresta. Vicino. Ok. Quindi andiamo verso sto Brawly. Brawly? Da Brawly, da bere. Brewery? No, non lo so, però immagino che andiamo... Cioè, tu da dove vieni, Barbara? Dal profondo nord, a sud del... Dammi qualcosa che... Dal profondo nord, a sud! Sud del santuario della notte eterna. Ah, quindi vicino Ugvold, insomma. Esatto. Va bene. Allora andiamo verso di là. Forse potremmo fare una tappetta anche alla Torre dei Saggi. Occhiolino, scherzino. Non vado alla Torre dei Saggi da tempo, però immagino saranno felici di vedermi, quindi verrete accolti con la tipica caloroso benvenuto dei nani di Moria. E ragnatele, vermi. Va bene. Vabbè, intanto prima c'è sto Brawly, e poi in realtà no, ci sono anche altre cose che però non hanno un nome. Non lo so, noi andiamo verso nord, quando Giulio... ha deciso ha deciso di mascherare. Sì, lo so, allora a livello pratico vi, però ci devi chiedere tu vi riposate no, intanto no, ora in questo momento no, cioè andiamo soffriremo un po', ma dobbiamo andare, cioè in realtà soffrirete voi perché io sto sul carretto e non cammino. Ah, anch'io in realtà potrei andare sul carretto e dormire. Non abbiamo cavalli, Vabbè, abbiamo qualcosa di più, esatto, di un cavallo. E metto no, a Barbara. Veloce, uomini deboli. Io non ho bisogno di riposare. Allora, e intanto, uomini a chi esattamente? Giusto, Barbara. Uomini deboli, ma tu fortunatamente sei una donna forte. Andiamo. No, lo dice a se stesso, uomini. Quindi tu li trascini per tutta la notte finché non arrivate all'infinito alla città? No, intanto andiamo per uscire fuori da sta foresta. Poi ci accamperemo. Ok, quindi andate verso... fate la strada per tornare indietro verso il tempio, per prendere la strada. Ah, sì. Oppure attraverso la foresta. In carretto non ci passa attraverso la foresta. Facciamo un giro, facciamo un giretto, cioè per diciamo non farci sgamare, che andiamo direttamente, diciamo, oh, ragazzi, scusate, non tanto torniamo. E poi dopo ci andiamo sulla strada appena possibile. Direi così. Ok. Ci allontaniamo un po'. Arrivate quindi indietro e vi mettete in cammino su uno stradone. Sì. Verso Brawly. Allora, mentre camminate, ci vuole diciamo 4-5 giorni per arrivare alla città. Almeno io dico che sono in direi che va bene in ogni caso. Vedete che ci sono vari spostamenti di truppe lungo appunto la strada. Che in che direzione vanno? Verso Bro. Quindi la nostra. Ah, beh, noi adesso direi che smettiamo le tuniche che avevamo e mettiamo normali panni. Dericidi! Aiuto! Non sono tipo super potenti, no? Dipende da dove, credo. credo che dipenda da luogo a luogo, credo, no? Cioè quanto i recisi sono considerati. I padroni. Sì, al Tempio dei Tessitori sì. Perché lì è tutta la cittadina in rovina, quindi loro sono autoproclamati perché non c'è di fatto qualcuno che dirà no, non lo vedete chiaro. Fanno in pratica giustamente direi, fanno, sembrano persone assolutamente competenti. I leghisti. Sì, parleranno con i profughi che si... Che arrivano qua per sfuggire dalla guerra. Erano tuniche verdi, ragazzi. Non si di fatto è vero. Al Tempio dei Tessitori si... ci vanno i profughi, scappano i profughi dalle guerre al nord. E questi qui fanno i bulli con i profughi. Questi invece, che da dove cioè, le conosciamo? Sono soldati del regno. Personalmente non li conoscete. No, le loro insegni. Cavalieri del reame, quali notizie dal nord? Interagiscono, vanno per la loro strada. Interagiamo e noi interagiamo. Hai le redini, basta che... con militoni, cioè magari non proprio ma insomma militoni. Quali notizie dal nord? Non ti cagano. Beh, un po' di educazione, però capisco che la disciplina militare è... un graduato, evidentemente, perché è a cavallo, mentre gli altri sono a piedi. Che pattuglia, cioè fa avanti e indietro per vedere, per tenere sotto controllo la colonna dei soldati. Che si ferma un secondo e dice: c'è la guerra al nord. La guerra è dunque iniziata. Non è mai finita. Che conta davvero, però. Grazie. Quindi, a Broly, qual è la situazione a Broly? Vabbè, Broly è ancora tranquilla, si sta... È un primo raduno delle truppe. E voi state andando lì, quindi? Anche perché il nord è qui, la capitale è tipo questa. Quindi se arrivano qui... Voi siete andati a Broly, quindi, adesso? Sì, è la prima tappa per poi riunirci alle altre colonne. Ho capito. Nei territori, in questi territori. E quindi adesso lì è solo praticamente per lo più truppe, insomma, smistamento truppe in quella città. Sì, ma adesso ci sono molti soldati che arrivano lì e poi ripartono. E la via per la capitale è al momento interdetta o si può ancora muovere liberamente? Siete liberi sudditi di un regno, o sbaglio? Appunto, liberi sudditi. Va bene, quindi cosa dice che possiamo fare il re al momento? Il re dice che i suoi sudditi sono ancora liberi di essere sottomessi al... di girare per le città del suo reame. Ok. Cercando però di non disturbare i suoi soldati. Ma chi potrebbe fare una cosa del genere? Va bene, grazie capitano, generale, comandante. Ammiraglio. Sono un sergente, però. Sergente. Sceriffo. Nostromo. Ci rivedremo a Broly. Forse. Dite voi. Lei venga, se sentirà subito parlare dell'arrivo del narratore. Poi faccio... Mi sono fermo e faccio... Barbara, muoviti. E ti guarda un po' così, poi ha da fare. Vabbè, arrivate abbastanza tranquillamente. Barbara, dobbiamo lavorare sull'uscita scena. Hai ragione, facevi veramente schifo. Io ridacchio dietro. E in 4 giorni arrivate, seguendo una colonna dei soldati, arrivate a Broly. Molto bene. Vedete che fuori dalla città ci sono degli accampamenti, diversi accampamenti, quasi tutto attorno, temporanei. Ha proprio voglia di farmi 3 o 4 birre. Andiamo alla locanda. Sarebbe bello avere i soldi per 3 o 4 birre. Va bene, andiamo a una locanda. I soldi. A chi servono i soldi quando hai questi? Ah, okay. Broly è un castello. Quando hai queste? Come, scusa? Okay. Ah, Broly è un castello difeso da 11 robuste torri. 11 robuste persone. Sono incastolato. I muri sono di marmo color avorio. Vabbè, per ora sapete questo. È color avorio. Perché lo vedete? Cioè, ok, c'è cioè, tipo il castello e poi ci sono la cittadina alle piede del castello. Serve il castello. Ok. Però principalmente è un castello. Beh, cerchiamo la locanda della cioè, cittadina. Un grande castello. In quanta gente ci vive? Il castello. Ambro. Va bene, dai, cerchiamo la locanda così. Beh, diciamo che saranno migliaia di persone. Ok. Va bene, dai, cerchiamo sta locanda così. Anche qualcosa di più. Vogliamo cercare un po' di informazioni. Ok. Tiro, sapienza, so dov'è la locanda. Sì, sono 5 case, grazie. Oh, ma che antipatici, cazzo. Questa è la locanda? No. Questa è la locanda? No. Questa è la locanda? Sì. Puoi fare anche un tiro sul castello, su Broly, ecco, proprio. Ecco, fai qualcosa. Faccio un tiro su Broly proprio. So che c'è un castello. Così ti so dov'è il castello. Ho fatto 4 più 5, 9. Grande. Broly, 11 robuste torri imponenti fanno la guardia ai punti più deboli di questo castello e sono collegati tra loro da robusti muri di marmo color avorio. Quindi noi sappiamo che le torri sono esattamente nei punti più deboli. Ampie vetrate che raffigurano scene della vita del primo campione sono intervallate da feritoie e merli, da cui arcieri ed artiglieri possono difendere la fortezza in tutta sicurezza. Eccolo. Il cancello si apre su un vasto cortile occupato da un piccolo tempio in cui i seguaci dell'ordine dell'alba vengono a pregare ogni giorno, prima di uscire in perlustrazione alla ricerca di adepti della notte eterna. Ah, sono sempre gli stessi. Loro sono gli l'ordine dell'alba. I recisi. No, no, loro vanno alla caccia. Quindi se ci beccano... Quindi sono i nemici. Sono un po' i paladini. Ah, sono... Okay. Un po' il ritrovo dell'ordine dei paladini. Ah, vanno a caccia di adepti della notte eterna. Okay, il castello di Broly ha difeso per secoli il piccolo villaggio al suo interno e ogni suo abitante è pronto a dar la vita per difendere il resto del regno. Non esiste uomo o donna che facciano parte dell'ordine dell'alba che non abbia già detto addio alle persone che amano per dedicare la propria esistenza alla ricerca di una definitiva vittoria contro le forze demoniache di Coptes e dei suoi signori infernali. Ma io non ho capito una cosa su sta guerra. Sta guerra è a nord della capitale, cioè lì dove c'è quel... Sì, il santuario della notte. Ah, ok. E cioè, ci sono dei demoni, di fatto, che combattono. No, sono per lo più barbari. Allora. Che dove dobbiamo andare? Cioè, contro... Tribù barbariche, che invadono il sud. Ah, ma quindi, cioè, sta gran paura erano tutte dei robi tipo lei. Hai maggior ragione, aggiungerei. Vabbè, infatti per questo che poi... Che però servono la notte, cioè, può essere che a volte ci sia. Ma la tua tribù, di fatto, serve la notte eterna, quindi... È molto probabile che il malvagio Re Kremisi l'abbia venduta al soldo di questi degenerati. Certo, se fosse stato il Re Kremisi invece voi avete la notte eterna per noi, per carità. Se fosse stata Barbara, per carità, rimaniamo nel nostro fango per tutta la vita. Sicuramente se fossi stato io il capo sicuramente avrei rispedito a casa a calci sia questi poser poser come sia questi chierichetti del giorno, della luce, dell'alba, del buon dì, del buongiornissimo caffè. Va bene, allora cerchiamo sta locanda, sì. E cerchiamo di perché si vede quella roba lì? Cerchiamo di farci amico qualcuno. Noi in realtà per cosa vogliamo sapere? Cioè noi non sappiamo ancora nulla. Cosa vogliamo fare? Cioè qual è il vostro pensiero, compagni d'avventura? Andare a nord a staccare teste. Va bene. Quindi noi in realtà siamo qui solo di passaggio. Non cerchiamo nulla veramente in questa città. Io no, No, però ci fa comodo riposarci qua. Sì. Quindi... Va bene, allora diciamo che cerchiamo la prima locanda e io cerco di dare spettacolo nella locanda. Okay. Nascondiamo per bene queste tuniche. Che possono anche la locanda abbastanza. Beh, che... potrebbero esserci utili più avanti. Oppure potrebbero essere pericolose se ci trovano in loro possesso. Beh, si fa sempre in tempo ad affabularli. Diciamo. Poi queste cose ovviamente non le sto dicendo, non le sta dicendo il mio personaggio, lei se ne è fottuta. No, nascondiamole all'interno del carrello personale. Poi fate Bobis. Non lo so. Tu allora, Memphis che dici? Secondo me possiamo semplicemente nasconderle, abbiamo una cassa nel carretto, le metterei tipo lì. Va bene, nascondiamole. Va bene, allora la locanda come si chiama? Ah, Giulio. Dentro o fuori il castello? Ah, si può andare anche dentro il castello? Beh, suppongo che fuori... da quello che ho letto c'è un villaggio dentro il castello. Ah. Suppongo che fuori costi meno. Però. Va bene, boh. Dove c'è più gente, credo. Come diciamo vedremo? Che quando è avvicinata al castello capite che c'è un po' tanta gente e... mi fanno anche diciamo... Oh, ma non c'è bisogno, cioè io la, in linea d'aria la prima che becchiamo lì ci fiondo dentro. Se le fa tutte, ah. il miglio dorato. La città che nel corso del tempo è cioè il villaggio che si è espanso anche fuori dalle mura, mm-hmm. nel corso degli ultimi anni appunto, mm-hmm. raccogliendo anche gente che scappava dal nord, andate alla locanda lì che è abbastanza piena, anzi parecchio, perché comunque sono tutti soldati che anche se hanno le loro tende vanno lì a passare magari la serata, se non hanno esercitazioni o se non hanno altre cose da fare. Mm-hmm. Andate alla locanda... Devo fare una roba. La lampada scarlatta. La lampada scarlatta. Non è una penna. Sì, di qua. Sai che il mio tentativo è andato a peccato. È un po' puttane. No, volevo far vedere la foto che ha mandato Salla, ma... come potete vedere, la posso pubblicare come copertina? Di cosa? Nella... Ah, sì, sì. Ah, no, lo so, volevo farla vedere adesso se riuscivo a scaricarla. No, ma chi se ne frega, tranquillo, easy. Adesso vediamo, più avanti forse, nella serata. Quindi tu ti metti lì a suonare, a declamare. Sì, allora, io sì, entriamo e fa... faccio... Tanto c'è molto casino, ci sono canti... È una tavolata di soldati che fanno... Va bene. Mi salgo su un tavolo. Ok. E già i commensali che sono lì ti fanno... Ah, credi! Che cazzo fai? Ecco. Mi aggiungo alla grida dei commensali. Sapete forse chi è fortunato oggi? No. Sicuro non noi. Proprio quelli che erano la lampada scarlatta di tutte le locande del reame hanno avuto la fortuna di incontrare oggi il narratore. Eccomi a voi dunque per raccontarvi le gesta epiche di Barbara. Ebbene sì, una barbara guerriera che ha sfidato da sola tutte le truppe. I barbari non ci piacciono, a morte! A morte! Esattamente, esattamente, signori miei. Esattamente, i barbari puzzano. Sì. Notte oscura e lunga e nera e quello che è eterna. Ma... ella da sola sconfisse più di un capo tribù per portare la luce là dove la tenebra ormai aveva attecchito. Ma sfortunatamente un malvagio guerriero, il soldato Cremisi, ora capo Cremisi, ora capitano Cremisi. Come cazzo si chiama sto Cremisi? Re Cremisi. La sfidò a duello, ma non le disse che era un inganno. Perché era un inganno. Perché era un inganno. e gli diede appuntamento in questa palude per sfidarla a duello, per decidere finalmente chi avrebbe governato le tribù dei barbari. E una guerra tra la luce, quella di Barbara, e la tenebra, quella del re Cremisi. Ma quando Barbara arrivò con il suo fare sicuro alla palude, non trovò il re Cremisi, bensì una distesa di sabbie mobili che piano piano la inghiottirono. Ma con la sua forza, ma nemmeno le sabbie mobili potevano sfidare la forza di Barbara, ed essa si liberò da quelle sabbie. E fu allora che vide il drago. Ebbene sì, un drago tremendo la prese e in un sol boccone e cominciò a masticarla. La portò via con sé, nella sua tana, lontano, nei monti. Ma Barbara non si lasciava certo... Ma se l'ha masticata! Ah, non si lasciava certo... Voglio sapere come va a non finire. Si lasciava certo... Non si lasciava certo spaventare da un semplice esofago di drago. Ma l'ha masticata, non l'ha inghiottita! Con la sua possente spada si aprì una strada... Il collo del drago, e da lì uscì. Io ho studiato anatomia. Zitto, che rompi coglioni. Molto bene, e sai quindi che se un drago perforato dall'interno tendenzialmente tende a morire. E fu così che Barbara guadagnò la sua libertà, ma ormai la sua spada era destinata all'oblio, poiché, come sapete tutti, la saliva di un drago è corrosiva. E anche la sua armatura che l'aveva dal drago. Che l'aveva... Beh, questo drago, sì. Questo drago se lo ammazza, catta lo uccide. Beh, non è un solo tizio, sono vari tizi. E... io faccio la... Beh, però ormai ho la loro attenzione. E a quel punto Barbara sconfisse il drago nella più epica delle battaglie. Quella tra l'esofago, quella per non essere ingoiata. Il bollo alimentare. Ma a quel punto Barbara si trovava ormai a chilometri di distanza. Il re Cremisi aveva quindi vinto, ma solo con l'inganno e solo per il momento. Se volete sapere altre storie di Barbara, vi basterà chiedere al narratore. Pigiare uno. Beh, ora posso tirare un mega ascendente per vedere. Mega ascendente! 4 più 5, 9! Vabbè, ah, più è piaciuta comunque. Cappellino, soldino, birrino. Prendi una decina di monete d'oro. Mamma mia, 10 telomini per me. Grazie, siete un pubblico meraviglioso. Bravo, c'è i soldi. C'è. Va bene. Anzi, magari lui... Anzi, lei ti fa... Vorrei proprio conoscere questa barba. Si chiama come me! Non so, con di cose in comune. Ok, WhatsApp, web... Anche se non ho mai affrontato un drago. Zitta, Barbara. C'è ancora tempo. Era un'altra barba. Va bene. Vabbè, no, l'oste ti offre un boccale di birra. Bravo, oste. Come cosa si racconta da queste parti? La guerra, insomma, Okay. All'oste. Sì. A Barbara. Non lo so, la storia di Barbara. Sì, ma ora che so che c'è Barbara sono più tranquillo. Oh, cazzo. C'è questa Barbara? Secondo me dovremmo cercarla. Potrebbe tornarci utile. Sì, la guerra, come vedete, la maggior parte degli avventori adesso sono soldati. E in verità questa città, questa diciamo espansione del villaggio È stata costruita apposta. È recente ed è stata fatta per accogliere sfollati e truppe, perché sennò il villaggio vero dentro al castello. Cioè originario è dentro il castello. Capisco. E invece dalla capitale quali sono le notizie che giungono? Ma la capitale non corre un pericolo effettivo per il momento. È la più grande città del regno. Impossibile da conquistare da queste truppe barbariche, sembrerebbe. Beh, per tutti noi è molto improbabile. Quindi insomma bisogna stare comunque tranquilli. Però, ma per la caduta della capitale, ma tutte le altre terre sono alla mercé dei barbari. Capisco. Di che tribù si tratta? Non saprei dirti, qui non aggiungono i veterani dal fronte, questi sono reclute che vengono mandate al fronte. Noi in verità della guerra sappiamo qualche resoconto dai profughi, ma i profughi... Sapienza! Boom! Due di dado! Cosa vuoi sapere? Due di dado, 5 più 2 7 rock. E vorrei sapere chi combatte, come, quando e perché. E perché? Sì. Allora, sfogliando il tuo libro. Ok. Se tu sei uno che va in giro non ti dice guarda, secondo me è così, qua c'è scritto di no, ma no, allora, praticamente il libro l'ho scritto io, cioè io mi scordo le cose che so. Ah, ok. So talmente tante cose che mi scordo quelle che so. Vai all'indice, vedi tribù barbariche, vedi la pagina e c'è tutto, diciamo, un discorso che hai fatto, che ti sei segnato sulla guerra, su chi partecipa. Sui cannoni, esatto. Non è la cosa più recente, diciamo, non sai esattamente al fronte cosa sta succedendo in questo momento, però sai che quasi tutte le tribù dei barbari sono state in un modo o nell'altro piegate al volere dell'unico anello. Ah no, scusate, ho sbagliato. Del demone Coptes, che è antico. Il portatore della notte eterna. Grande coppi. Le più attive, sì. Le più feroci, solitamente, per quello che puoi sapere, erano le asce insanguinate. Cane. Tribù barbariche. Le asce insanguinate che sono... hanno la fama di essere le più feroci e di solito non fanno prigionieri. Proprio tutto, uccidono qualsiasi persona incontrino. Poi ci sono i piedi freddi. I piedi freddi. D'altro, come si chiamano, scusa? Asce insanguinate. Di cui sai poco. Questi gatta si risegna perché sono tutti amici suoi. Sì, esatto, dice. Asce insanguinate erano i più feroci. Sai poco in verità, a parte che si dice che il loro capo sia un potente incantatore. Si dice sia nato dalla neve. Ok. Per quanto tu non hai mai visto nessuno nascere dalla neve, quindi nutri qualche dubbio su una cosa. Okay. Però solo dai piedi. Va bene. Però vedendo Barbara, tutto sommato, forse anche la neve può partorire qualcosa di senziente. Forse anche il fango. E ti fai dire così. E anche fosse un cazzo di piedi insanguinato. Ah, no, piede... Gli orsi selvaggi. Mamma mia. Sono 5 le tribù principali, adesso devo trovare altre due nomi. Gli orsi selvaggi, che dire, il nome... Vabbè, ma quindi queste sono tutte le tribù che combattono, sono le tribù principali che combattono e sono le più attive per quello che sai, e le principali. Come hai schiavato la tribù, Katta? Asce insanguinate, piedi freddi, orsi selvaggi. La mia erano piedi freddi. Scelte. Fammi sentire i piedi, Barbara. Però so che da quando hanno cambiato nome, da quando il malvagio Re Cremisi ha preso il comando, e adesso si chiamano i massacratori Cremisi. Ok. Uno è i massacratori Cremisi. Conosco questo nome. Sembra proprio che non mi interessi. Che cercano di gareggiare con le asce sanguinarie, però le asce sanguinarie sono comunque più feroci. Come sempre perché stato. Perché non ci sono io a capo loro. Dovresti dire così. L'ultima, ma la più numerosa e la più attiva, sono le aquile di sangue. Insomma, gli piace il sangue, sicuro. Sì, no, chiamate così perché ai prigionieri... Le aquile di sangue. Gli riempono di piume e sangue. No, no, loro praticano quasi tutti quelli che catturano il rituale dell'aquila di sangue, che è un rituale in cui in pratica... Ti mettono un'aquila dentro il sangue. lo mangiano un'aquila e le inforciscono. Spezzi le costole da dietro alla schiena, tiri fuori i polmoni e li poggi su. È un rituale vero vichingo comunque. Ma è un rituale per uccidere? Sì, ovviamente. Oppure chi sopravvive diventa un'aquila di sangue. Abbiamo un calo di iscrizioni in questi anni, chissà perché. Almeno dalla nostra fondazione. Che schifo. Ok, bella le aquile di sangue. Sì. Magari non potremmo anche non incontrarli. Ok, allora mentre ne parla, e questi sono tutti contro sta gentaglia qua? Questi sono quelli più attivi che stanno cercando, che depredano i territori del regno. Ok. E d'accordo. E quelli che un po' si cercano di contendersi la leadership dell'orda che si sta radunando. Capito. Easy. E quindi quelli predominanti sono quelli di sangue. Anche quelli di sangue sono i più numerosi e quelli che hanno più diciamo forti. Ok. Tutto questo parlare di sangue, si è fatto venire voglia di un'aquila al forno. Io non credo che... Adesso Katta si gira, anch'io ho fatto il rituale delle acque di sangue, tipo due cicatrici dietro. Noi lo facevamo col cervello, però. Non ho ricordato nessun problema. Ok. Bevo fino a perdere bevo il senso. Sangue. La birra o quello che bevono qua. Ok. No, cioè sia birra che idromiele, vino. Dai. Il vino cosa hai più? Mi scolo 4 litri di birra. Con 2. Porco zio. È stato leggero. Che sta facendo? Sembra che stia per morire Giulio. Cosa ha fatto? Ha fatto una faccia tipo... Dai, caro non era proprio... 4 litri di birra. 8 monete d'oro. Cosa posso voler essere? Io dico... Senti, io vorrei mangiare un pasto frugale, anche tipo una mollica di pane, va bene per me. Va bene, va bene. No, no, no, allora di coste. È solo flavor. Mi sembra... Non ci sono prezzi per le cose, in realtà. Ah, è gratis. Mangio un orecchio dell'oste. Che è di cioccolato. I boccali sono di metallo. Sì, okay. A te, per te è di metallo. Allora dico Oste. Mi sembra che sia un po' anacquata questa birra. Non penso valga addirittura 8 monete d'oro. E intanto strengo il bicchiere. Facciamo c'è una rissa con 150.000 soldati preparati. Perché cazzo? Non conosco questo personaggio. E perché sono paziente e caritatevole. No, sono 8. Scusami. Cioè, non è che io vado a comprare la birra al mio fornitore e dico no guarda una perché ti do una moneta d'oro, no, devo pagare anche io il mio fornitore. Sai ridurre un poltiglio a un calice di metallo con una mano? Personalmente no. Allora però... fammi anch'io in realtà ottimo sì. Vai. Se mi racconti sul vigore 10 e io sussurro pensa al tuo cranio. Oh, ok. Lui scappa via, cioè ti ritrae, però vedi che va a parlare al tavolo delle guardie, dei soldati. E ora me ne vado anch'io, va? E c'è un soldato che si alza e viene in altro verso te. Ma porca puttana. Se il prezzo è 8 monete d'oro, vanno pagate 8 monete d'oro, altrimenti è furto. Se per quello che pago voglio bere quello che pretendo di bere, non dell'acqua sporca. Visto che sei arrivato al quarto litro di birra, te ne saresti dovuto accorgere prima, magari, se non ti piaceva. Bevo in unità prefissate. Io vado da Dalby, non gli faccio Dalby. Ah, ma non c'è alcun motivo di creare problemi. Dovete sapere che la nostra povera ragazza qui non ha avuto la fortuna di avere un'educazione che gli permettesse di comprendere i numeri. Quindi per lei 2 è maggiore di 8. 8, capisci? 8, ti faccio vedere le dita. Questo è 8. Capisci? Ti picchia te, 8. 8 è quello che gli volevi dare, vero Barbara? Vero? No, non lo so, un gran mal di testa, senti, questi sono i miei soldi, dagli tu quanto gli devi dare. Sì, no, ma lei pensava che gli avesse detto 20, capito? Non 8. Solo che ora l'oste non c'è e quindi non so se gli possiamo dare. Ma l'oste se viene volentieri glielo pagheremo, lei non, semplicemente non, con i numeri non è brava, quindi ha capito un numero che non era quello di quella guardia. Può okay. Fare con ascendente? No, va bene, cioè non è, cioè è un ragionare in realtà, sì. Sì, ma lui non ha assistito alla scena. Cioè, bene, allora datemi queste 8 monete d'oro e magari non importunate minacciando di morte l'otto. No, non era questa la sua intenzione, cioè per la sua cultura... Tecnicamente non era morte, semplicemente gli avrebbe schiacciato la testa. Nella sua cultura mostrare la propria forza a un altro significa anche mostrare rispetto. Affetto. Quasi affetto, direi. Affetto. Ma non qui. Ah, no, ma su, guardi, lasci stare. Te l'ho detto, quante volte te l'ho detto, Barbara, va che bene. Non siamo... Queste 8 monete d'oro, per favore. Dai, Barbara, tira fuori queste 8. Ah, tu io ti tieni le 8. Fai tu questi okay. Conti. Dai, ah, lui sì. Vedete che il soldato le prende e poi le dà al nostro. Ok. E l'oste però non vi si avvicina più. Ok. Soste? Dicevo, io prenderei volentieri una mollica di pane. Per cena. 8 monete d'oro. 8 monete d'oro. Però io gli do fuoco dopo. Diciamo che vi sedete, fermate una cameriera perché l'oste non vi... Beh, se è una mollica di se una mollica di pane quella che desidera, seguimi Memphis. Andiamo tipo da un tavolo dove c'è qualcuno che sta mangiando tipo del pane e ha tutte delle briciole lì. Allora io mi vado di fianco. Ah, ma quindi sei tu, Joseph? Gli do una pacca sulla spalla. Intanto che lui parla, io mi siedo di fianco e comincio a. No, io in realtà pensavo con la mano, siccome tanto tu non ci arrivi. Ah, ok. Io con la mano tiravo giù le briciole e tu, esatto, ti nutrivi. Sì, sono Joseph, ma tu chi sei? Ah, Joseph, sei proprio tu. Ma quanto tempo sarà che non ci vediamo? Cibo. Non ricordi? Di me, io sono il narratore, dai, Dalbiro, non ti ricordi? Ah, ma forse ho sentito una tua ballata. Ma certo, questo è chiaro, ma ci siamo anche visti. Dov'era? Forse... forse era... Io vengo da un piccolo paese... Sigra... Gorger... Car... Non ricordo... Arg... Ger... male. No, il nome era... forse... For... Per... Lingol. Era Lingol! Lingol, ma è chiaro, sì, ci sono passato. Ormai è tanto tempo fa, questo è chiaro, ma... Allora, dimmi, come ti trovi adesso? Adesso vedo che sei con l'esercito, insomma. Sei con l'esercito? Sì. Ok. Un attimo, mi segno una cosa. No, sai com'è... Cioè, per ora bene, però dobbiamo andare a combattere. Sì. Ma la paga però, insomma, è buona, no? Sì, puoi mangiare al locale senza nessun diciamo problema, se senza barbari. I veterani poi è garantito un terreno. Vabbè. Le prospettive, se uno sopravvive, sono buone. Sì, ma vedrai che... se sopravvive. Sì, ma vedrai, dai. Vedrai che andrà tutto bene. In fondo cosa possono fare dei barbari a un uomo grosso e potente e astuto come te? Gli do due pacche. Come l'oste. No, non è vero. Beh, un uomo normale, non è particolarmente ascolta. Magro, piazzato. Ascolta, Joseph, ma quindi ora voi che strada dovrete fare? Lo sai già? Tra quanto ripartirete? A gruppi, il mio gruppo credo che riparta tra 3 o 4 giorni. Io intanto sono lì che mangio. Ti ho avuto giù con la mano le briciole. È quell'animale e non sono un animale. Oh, che carino, prendo un tocco di pane e te lo porto. Ah sì, questo è Memphis, un piccolo qualunque cosa sia. Non sono, vieni Memphis, siedi con noi, non essere timido, c'è pane per tutti, credo. Ma sono sazio, grazie. Dinare per una cameriera? Sì, forse qualcosa. Anzi, chiamo l'host. Chiama l'host e vede che l'host non arriva. Ah, però non c'è Barbara con noi adesso. Sì, però nel gruppo. Ma non saranno che l'host prima era simpatico. Ah, okay, ferma una cameriera. Che host di merda, però. Io prendo il menù cantastorie. Così? Sì, insomma, io sa, forse mi ha riconosciuto, forse no, perché sì, minchia, ma stai giocando Ema o stai giocando? È assolutamente Ema. Io sono il narratore. E sicuramente con una pancia piena... narro meglio. Sicuramente... lascerò che le mie conoscenze delle leggende del grande nord e del grande sud e del grande centro e del mitico ovest e del mitico est. Cosa vuoi da mangiare, però? Quello che la casa può offrire a un narratore. cioè, è proprio Ema. Beh, di norma, da dove vengo io, ma anche dove sono stato... si offre al narratore qualcosa. Sì, è stato già offerto un boccale di birra. Quindi non solo un boccale di birra. No, cioè, ottima birra, devo dire, valeva assolutamente tutta l'offerta. Ma va bene, allora mi fai un altro spettacolo. Sì, volentieri lo farò, ma adesso vedi, ho bisogno di un po' di ispirazione fisica. Una moneta d'oro, abbiamo lo stufato, un arrosto, il poscelino. Vada per l'arrosto con... ecco il tuo telomine. Te lo do. Anzi, tieni anche quest'altro e portami un altro boccale di birra. Ah, e cosa? Come l'hai chiamato? Joseph. Si chiamano tutti Joshua Joseph. Ah, bravo, l'arrosto è buono, bravo, buona scelta. Allora cambio. Dopo un po' arriva con la rotta un boccale di mirra. Vabbè, provo, diciamo, mi informo un po' se vedo se, se magari parlando con lui o quelli che sono vicini, se c'è qualche notizia interessante, magari un po' strana, su, che ho sentito dire di su, di giù, qualche parte. Posso fare un tiro? Vabbè, un tiro normale, immagino. Su, con cosa? Ascendente? Per fargli parlare? Sì, dai. Per fargli un po' chiacchierare anche fuori dai denti, robe così. 5 più 5 è 10. Qualcosa di interessante. Qualcosa di un po'... cioè, non ro- perché magari scopri che la moglie di uno è incinta. No, magari tipo, cazzo ne so, o qualcosa tipo dei dintorni di... cioè, una, che so, una news strana, tipo lì c'era una torre che esce dal, dal fango, non lo so. Oppure sai una notizia... c'è un po' di preoccupazione perché alcune delle ultime notizie giunte dicono che questo... il capo Barbaro sta dirigendo, sta cercando di aggirare, diciamo, le difese per arrivare alla Torre dei Saggi. Alla Torre dei Saggi? Allora ho ragione io, l'accoglienza di Moria è la migliore. Capo, si sa il nome di questo capo? Come viene chiamato? Di che tribù è? Boh, dicono il re... il re. Sono un po' ubriachi. Re, figurati. Re, Barbaro. Re qualcosa, si fa chiamare re. Boh, forse rosso. Magari uno di quei colori, sì, una roba stupida, ragazzi, tipo re verde, re cremisi, roba così. Ma pensa a te, oh, quanto possa essere male. Messi male sti barbari per usare i colori, ma va là. Pazzesco, incredibile. Ma è vero, Barbara? Chi mai... cos'è che dice il tuo amico? Non l'ho mica capito bene. Per far impazzire Barbara. Pare che il re Cremisi sia considerato il miglior re di tutti i barbari di sempre, Barbara. Ma non lo dico io, lo dico io, lo dicono. Però la nostra palissia è lui, da... sarà il miglior re cadavere allora di tutti i barbari. Comunque, cosa stavate dicendo con i vostri amici? Cos'è? Sto guardando il nostro video. Il nostro video lì è bloccato, ma va. Ah, ok. Sì, va un po' a scatti, ma... però va. Cioè, lì è bloccato così dall'inizio, mi sa. Anzi. No, prima un po' andava, perché io mi vedevo che... no, ma perché, ma perché vedevi questo, mi sa. Sì. Ok, così ti senti meglio. Mi piace. Ecco, sì. Mi piace quando mi vedi, come detto. Mi piace se ti muovi. Va bene. Allora, Barbara, devi sapere che ho avuto Memphis e Barbara. Ho avuto una notizia interessante per noi, forse, o per voi. Praticamente, buono quanto pare... pane. Ma stai ancora mangiando? Pare che il tuo amico, il re Cremisi, si stia dirigendo verso la Torre dei Saggi. Torre? Mm-hmm. Torre dei Saggi. Mm-hmm. Cosa che forse è pericolosa per tutti noi, nel senso che forse noi, visto quello che abbiamo visto, dovremmo appunto farci tappa per magari avere qualche discernimento in più. Questa è una splendida notizia, presto, al corretto, dobbiamo... Come, scusa? Ecco, appunto, stavo giusto pensando che forse col carretto da solo potremmo essere un po' lenti, quindi magari potremmo trovare un modo di ottenere un cavallo da qualcuno. Almeno, o due cavalli forse, o tre cavalli, o cinque cavalli. Da qualcuno chi? Vediamo se dall'host riesco. Ah, il mio amico. Ma quindi torno a chiedere a loro, cioè, se c'è qualcuno che viene mandato, qualche truppa che viene mandata verso il fronte di torno. No, nessuno. Va bene. E niente, dovremmo cercare dei cavalli, penso. Ma quanto dista la torre da qui? Sapienza. Ah no, lo sai già. Sapienza. Quattro da lì. Almeno sei giorni. Sei giorni. Ad occhio. Non lo so. Sì, anche qualcosa di più, perché dovete passare le foreste. E secondo me ci starebbe di... Però io non so se posso cavalcare, magari cavalco con uno di voi. No, però se possiamo anche semplicemente prendere un paio di cavalli che tirino il carretto. Sì, anche. Cioè, già saremmo più veloci, penso. E se chiedessimo a qualcuno di prestarcelo, se no ci offrissimo di fare un favore o qualcosa del genere? Potrebbe essere una buona idea. Vediamo... Chiedo a Joseph... Chi si occupa delle cavalcature dell'esercito, se lo sa, cioè qua, in questo punto, se ci sono delle scuderie, robe così. No, certo, sono le scuderie dell'esercito, ma i cavalli sono dell'esercito. Capisco, ma chi è che si occupa? No, nel senso, c'è una guerra, il re ha fatto una legge per cui... Vabbè, magari possiamo arruolarci. No, certo. Io piccoletto, non so cosa potresti fare nell'esercito, però qualcuno di voi sicuramente potrebbe. E però non ho 213 anni per rispondere alle provocazioni. Magari c'è qualcuno con cui possiamo comunque parlare delle scuderie. Ah, sì, possiamo andare, ce ne sono vari, quattro. E tu che dici? Conosci qualcuno di questi? Lo conosci bene qualcuno di questi? No, bene no, però quello della mia compagnia è Franz. Franz, che dici di accompagnarci lì, Joseph, giusto per fare un po' di conoscenza, oppure in quella zona? Così tanto qua. Assolutamente, quando ovviamente ci sarai... Vabbè, domattina andiamo da Franz. Va bene, dai, allora ci vediamo domattina. Ok, il mio accampamento è quello a ovest. Ah, va bene, dai, beh, vabbè, posso anche, possiamo anche riaccompagnarti tu, insomma. Non potete entrare. Ah, capisco. E quindi come facciamo a trovarci? Ci troviamo all'entrata dell'accampamento. Va bene. Sveglio. Ma sicuramente la disciplina militare ti farà svegliare. Poi potete entrare, perché di giorno... Ok. Con una richiesta, un permesso, si può entrare. Ok, va bene. Direi che a sto punto proviamo, sperando che lui si ricordi. C'erano anche altre bettole dove dormire in questo villaggio. Ma chiedi all'host. Dire... Esatto. Ah, è vero, sì, forse è vero. E invece per chi non è nell'esercito, dove si può alloggiare, secondo te, Joseph? C'è questa taverna, quella dentro la città, però sono pienine, perché appunto tra soldati e coso, è tutto. Ci sta. Va bene. O magari potete chiedere all'ordine dell'alba, magari loro delle camere per i forestieri, qualcuno la tengono. Forse, non so. Grazie Joseph per queste tue informazioni. Cosa dite? Chiediamo all'ordine dell'alba. Va bene, chiediamo all'ordine dell'alba. Ordine dell'alba? Ordine dell'alba. È chiuso perché è notte. Uscite e vi dirigete verso la fortezza. Che vedete abbastanza chiaramente perché riflette ogni minima luce, essendo totalmente bianca. Arrivate, ovviamente i cancelli sono chiusi, sono le guardie. Chi va là? Alto là, chi va là? E... Vagabù, no. C'è un saluto che so di questi qua. L'ordine dell'alba? Mm. Tipo, sia sorga il sole domattina. O tipo per il campione. Ok, per il campione siamo viandanti, viaggiatori in cerca di asilo e ospitalità. Ah, venite qui un po' tardi, però sì, ok, fatemi Venite più vicino alla luce, dobbiamo un attimo controllare. E va bene, ci avviciniamo mandando avanti Dalbiron. Tipo, vai. C'ho un po' di eco io, mi rientra il microfono da qualche parte. Ti guardano, magari ti chiedono dei documenti. Ho dei documenti. Certo, mille, quali? Cioè, essendo un cantastoria, probabile che tu abbia comunque qualcosa. Certo, ah no, questo non sono io, questo neppure, beh insomma... E ti perquisiscono, ok, a parte la pipa, non toccate la mia pipa, un'armatura leggera, uno stocco, un pugnale, una tunica nera di accolito della notte eterna buttata in un questo non mi serve, no, quella però l'abbiamo nascosta nel carretto, e delle monete, vabbè, poi avrò cose diciamo normali, che ne so, macciarine, pietra focai, dell'erba pipa. Sono tutta erba viva. Non sì, vorrai noi... privare un vecchio del suo appoggio. Ci hanno detto purtroppo alla lampada scarlatta, alla lampada scarlatta che non c'è posto per stanotte. Noi invece avremmo bisogno di riposare i nostri umili membra. Beh, membra, non membri. Che schifo. Vabbè. Non so, forse è rimasta qualche cella. Beh, io non occupo tanto spazio, come puoi vedere. Potete chiedere alla foresteria entrati. Dovreste trovarla abbastanza facilmente. Grazie, fratello. Grazie per il tuo umile e generoso aiuto. Non siamo fratelli, ma vabbè. No, fratelli dell'alba, però. Ma perché devi associarti a fratelli della luce? Nella luce noi crediamo, nella luce noi viviamo e nella luce noi speriamo. Sì, giusto? Potete entrare. La notte eterna, insomma. Perché la notte è oscura e piena di pericoli. Vi fanno entrare non dalla porta principale, ma si apre una porta laterale molto più piccola. Ok, e c'è qualcuno? Qua. Foresteria, gli chiediamo. Siamo degli umili forestieri. Sì. In cerca di un... È rimasta solo una cella, un po' scomoda, ma se volete... Beh, penso che una, come si suol dire, un raggio di luce è sempre... Io comunque se fossi te, Catta, lo picchierei. Un raggio di luce, anche solo un raggio di luce, è sempre meglio dell'oscurità più profonda. Quindi... Capisco la metà delle cose che dice. Ok, comunque tanti auguri, perché il bardo nella prossima la faccio io e buonanotte. un'unica cella sarà abbastanza per noi tre. Sì. Cioè, in realtà basta una cella per Barbara e poi uno spazietto per... Va bene, volete la colazione da mattina? Sì, dolce, grazie. Una colazione per ristorarci sembra la scelta migliore. All'alba, non scherzo. Allora sono... Vabbè, non sono la cella, quindi non ha senso. Vabbè. 5 monete d'oro. Complessive. Sì. Vabbè, dai, potremmo anche darle senza rompere troppe le palle. Sì, va bene. Barbara... Non ho capito niente, tu tieni il mio borsello e prendi quello che ti serve. Vabbè, io ne metto 3. Vai. Io ne metto le 2 di Barbara. E ne tolgo 2. Puoi farlo. Come siete messi quei soldi? Il totale non si abbassi troppo perché io riesco a contarlo. Va bene Barbara, stavolta offri tu, in fondo mi devi il fatto di non essere in prigione. Quando rimangono 2 monete. Il limite sono le mie dita. Per no, Barbara, non capisci, quelle 2 sono di maggiore valore rispetto a tutte quelle che avevi prima. Le ho scambiate tutte le tue monete per 2 soldi. Ma soldi a pecunia? Io ne ho 30. 12. Come 30? La paghi tu, scusa. Sti cazzi, io faccio tutte le cose. Che pezzo. Beh, ho capito, Barbara tra le due, in realtà mi devi il fatto di essere andata in prigione, comunque, vorrei dire. E tu mi devi il pane, il pranzo, pezzettino lurido. Vabbè. Vabbè, dormite, si fa mattina, vi svegliano. Mm-hmm. No, no, vi svegliate, non vi svegliano. E vi servono la colazione quando vi presentate. Mm-hmm. Va bene, direi che dopo andiamo al campo e vediamo se Joseph si è svegliato barra ricordato. Sì, non ha la migliore delle cere, ma Joseph è incredibile. Grande Josie. Oh, bella Joss, allora ieri serata di bagordi, insomma. Ah, sì, aspetta. D'Albiron. Anzi no, buongiorno, no? Buongiorno. Grazie, Joseph. Dicevi che il tuo amico Franz ci può aiutare. No, mi ha detto che lui si occupa. Vedete che mi poteva aiutare. Mi hai detto che ci poteva aiutare. No, ma io. Che pezzo di. No, lui si occupa delle stalle per il nostro battaglione. Ma sembra un lavoro importante. Sì, abbastanza. Ma come vi ho detto, i cavalli sono requisiti tutti per l'esercito in questo periodo. Non ti preoccupare, Joseph. Io sono sicuro che Franz, una volta che conoscerà il nostro valore, capirà le nostre necessità. Vabbè, io... tenete questi, vi danno 3 fogli mm-hmm. che attestano che voi potete entrare. Ok, grazie. Comodo. Adesso potete entrare e potete stare dentro al campamento 1 ora. Okay. Seguitemi e facciamo in fretta. Va bene. Seguite e arrivate nelle stalle. Io non berrei così tanto la sera prima. Zitto, sì. Melfi, scusa, ne vuoi sapere tu che potresti farti il bagno in un boccale di birra. Hai ragione, anche perché il sergente del plotone... Oggi pomeriggio mi ho messo ai lavori doppi. Quando ero giovane io non si beveva così tanto la sera. Già. Vabbè. Si usava la birra per lavarsi, vero? Vabbè. Vabbè, arrivate da Stotrant. E va bene. Ah, finalmente faccio la conoscenza di Franz, una persona di cui tutto l'accampamento parla con grande... Sono il capo stalliere, sì. Esatto. Fondamentale. Ascolta, mi diceva il mio amico Joseph qui che tu sei il migliore hai la migliore delle scuderie dell'esercito qui e non è assolutamente un caso. Sì, può essere un super a disagio. Cazzo di lei. Ora, mi diceva Joseph che giustamente ogni cavallo è destinato all'esercito, come è giusto che sia. Sì. Tuttavia, devi sapere che noi abbiamo una maledetta fretta di raggiungere la Torre dei Saggi per mandare un messaggio prima che possa essere troppo tardi. E da quello che so, purtroppo... un grande pericolo incombe sulla Torre dei Saggi. Sì, ma credo che persone molto più competenti di voi se ne stiano occupando. Assolutamente d'accordo con te, ma questo non cambia che purtroppo il messaggio in questione lo portiamo noi, sfortuna vuole, per la Torre dei Saggi. Come puoi vedere abbiamo con noi qualcosa che assomiglia a un quadrupede, indico Barbara, ma che purtroppo non ha la stessa velocità di un quadrupede. E quindi avremo bisogno di un paio di cavalli per raggiungere quel posto. Esiste qualche modo per poter ovviare? No. Magari qualche modo potrebbe esistere se tu avessi qualche favore da richiedere, potremmo aiutarti. Potrei usare un ascendente. Per fargli capire che noi abbiamo davvero bisogno di questo e siamo disposti a diciamo, venire d'incontro. Gli saremo molto debitori. Sì, sì, ma non può farlo. Non posso farlo, mi dispiace. E chi... Tutti i cavalli sono contati e requisiti. Porca troia. E chi può farlo? Porca troia, chi può farlo? Cioè, probabilmente il generale, ma comunque dopo dovrebbe risponderne al re, quindi è improbabile che il generale ve lo conceda. Ma è per imparvi. Già, ma se ci arruoliamo non possiamo andare là, direi. Beh, se vi arruolate nel reparto staffette, magari potreste andare per lustrazione. Sì. E chi ce lo permetterebbe? Conosci l'arruolatore? Certo, cioè, sono i bandi per tutta... Non possiamo arruolarci, non mi prenderanno mai, sono troppo una mascotte. Sì, e poi dopo saremo dei disertori in 3, 2, 1. Beh, qualsiasi mezzo è lecito pur di farmi arrivare di fronte al mio odiato nemico. Magari se riusciamo a parlare in qualche modo col generale, possiamo fargli capire la gravità della questione. Io come riusciamo a parlare? Come possiamo parlare con questo generale? Questo è più complicato. Dovete chiedere un'udienza, incontrarlo mentre è alla torre, cioè nella torre, al castello, parlando con l'ordine dell'alba. E a quelli dell'ordine dell'alba sono concessi i cavalli? Ah, certo. Potremmo entrare nell'ordine dell'alba. Sembra più semplice. Oppure potremmo rubarli. Sì, ma... Non eri preoccupato di essere un disertore? Cosa cambia? Sono io il preoccupato di disertore. Non sono preoccupato di essere un disertore. Io sono preoccupato che non mi facciano arruolare perché sono alto un metro e una sega e tipo sono... ho lo spessore di questa matita. Appunto, nel caso basterebbe che io e Dalbiron ci arruolassimo. Io sono l'animale domestico. No, ma scusami. Sì, ma il problema è che dopo, cioè, noi dovremmo aspettare di loro. Cioè, è un casino, in effetti, se ci arruoliamo. È più se entriamo nell'ordine dell'alba, invece magari se ci fanno fare una cerimonia veloce, dopo ci danno i cavalli. E, noi dobbiamo essere alla Torre dei Saggi il prima possibile, no? Se c'è sto problema se qua... Non è già troppo tardi. Ma sto problema non è un problema anche dell'esercito? Eh sì, ma a quanto pare non gliene frega un cazzo. No, voi sapete che questo capo tribù sta cercando di fare un aggiramento per arrivare alla Torre dei Saggi. Sì. Non è che l'esercito si sta girando i pollici. No, però... Insomma, un po' di fretta, se ho capito bene, c'è. Ma... Oh, se no andiamo e basta così. Secondo me... Non so. Sì, andiamo e basta. Avevo detto che era la cosa migliore da fare. Cioè non farei legami con gente a cazzo, perché... Cioè l'unica, la cosa più di senso è arruolarsi qua e far la staffetta per portare informazione all'accampamento là. Era quello che pensavo. Più che altro che potrebbe esserci utile nel momento dovessimo andare più a nord, però al tempo stesso sono un po' restio all'arruolamento. Però io, a parte che non mi posso arruolare, poi Barbara deve comunque... Barbara è donna. Ah, ottima osservazione. Che requisiti ci sono per l'arruolamento? Ora, capisco che c'è la parità dei sessi, ma non so se nel mondo fantasy sì. Donna lo dice a tua sorella. Beh, se è una sorella, sicuramente. Sicuramente è improbabile che Barbara venga messa... Sempre un baby sotto i tavoli. Venga inquadrata in un reggimento standard. Oh, come staffetta o carne al cannone. Non è che si butta via niente. Ecco, va bene, andiamo a sentire da gli arruolatori. Vai, andiamo a sentire. Sì, andiamo, io vengo per ridere, ma vengo anch'io. Beh, alla fine se sei nell'esercito probabilmente c'hai anche dei vantaggi. Sì, ma non è Full Metal Alchemist, non è che prendono i nanetti. Scopriamo, magari prendono... Cioè, tipo fare una compagnia di ventura, di sfigati. Aspetta, la staffetta puoi farlo anche tu, sei piccolo? L'informatore. La staffetta deve muoversi in fretta. Io sono un vecchio di merda. Vabbè, comunque sì, dai, andiamo. Toc toc. Arrivate a questa tenda dove c'è una figlia. Toc toc. Mi piace la narrazione. Va bene, Barbara. Quando entri da una parte che fai? Questa tenda ruppa il volo. Sì, massimi livelli di interpretazione. Ciao, ciao, tu fai toc toc su uno scudo e gli piace. Questi sono altissimi livelli di interpretazione. Toc toc. Chi è? È inutile bussare sullo scudo, comunque potete venire. Vi presento, sono Barbara, il flagello dei... La flagello. Scusi, signor Dalby Romboldrini. Salutiamo. Certo. Sono nella possente rovina dei barbari del nord e sono venuta qui per aiutarvi. Mi offro come volontaria per andare alla Torre dei Saggi ad avvisarli che verrà su di loro scatenata l'ira della tribù dei massacratori cremisi. Lo sbadiglio. Insomma, mi sembra sia appena svegliato il reclutatore. Sono tutti ubriachi. Io sono il saggio di collegamento. Che razza carina. Io sono il saggio di collegamento. C'è l'interprete. Sì. Io sono un grande cantastorie. Forse avrà sentito parlare di me. Era la taverna. Ah, quindi sa già di cosa stiamo parlando. I miei servigi però non riguardano solo... Non ci serve un musica di guerra. Non riguardano solo le canzoni e le leggende, anche se esse, come ben sa, sono la parte fondamentale di una strategia militare mirata. Oggettivamente. Oggettivamente. Come ben so. Assolutamente. Assolutamente. Ma dalla mia parte c'è anche il coraggio, perché vede, per sapere quelle storie bisogna anche saperle e saperle interpretare, saperle raccontare, bisogna anche saperle vivere. Insomma, come fosse Antani con scappellamento a destra. E io porto il mio coraggio e la mia conoscenza dell'ignoto. Ma sei ignoto, come fai a conoscerlo? Zitto! Bella presentazione, non c'è che dire. Quindi vorreste arruolarvi. Vorremmo arruolarci, ma... In realtà io solo interprete. Certo. Vorremmo arruolarci come staffette per... Sapete cavalcare? Assolutamente. Sì. Sono stato cresciuto da cavallo. No. Puoi cavalcare la Barbara? No. I cavalli... Ma non erano degli orsi l'ultima volta, Barbara? Lupi, cavalli. Non erano dei procioni. Puzzole. Quello. Va bene, mi metteremo un attimo alla prova, vediamo cosa. Lo solleva il cavallo e lo porta. Non è così che si fa. Avevo proprio voglia di sgranchirmi un po'. Che cosa devo fare? Allora, cosa devi fare? Buona domanda. Devo chiederlo al mio superiore. Oh, burocrazia. No. Cominciamo bene. Allora, fortuna che è reclutatore questo. Appunto, lui recluta. Appunto. Ok, voi non siete esattamente lo standard. Siamo il pacchetto premium. Siamo quelli gratis. Noi. Va attestato, ma lui non sa cosa c'è da fare per testare. Va bene. E vi indirizzo un'altra tenda. Grande, vai Katta, conosci sta cosa. non ti hanno insegnato le buone maniere. Io sono stato cresciuto da due maggiordomo. sono stato cresciuto da dei maggiordomi selvaggi delle pianure della tonda. Ma che cazzo, feroci maggiordomi. In quest'altra tenda c'è un sergente. Ah, finalmente parliamo con lei, sergente, un uomo di valore nel suo capacità di certo l'abilità di possenti guerrieri e più abili ad altre cose. La mia arrivata la comunicazione del reclutatore con la vostra richiesta. Fantastico vedere come funziona questo sistema. I burocrati di Futurama. Cioè, in realtà sarà così. Tipo, sento noi... molto più sicuro ora che ho che l'esercito. Sarà così. No. Noi che andiamo verso il sergente, e intanto ci passa di fianco uno con una busta di carta. Sì. Esatto. Questi sono i nuovi reclutati. E poi entriamo noi. Quindi, sergente, quando ha smesso di ridere, come un allora, dovete fare la staffetta. In verità vorreste andare alla Torre dei Saggi, a quanto pare. No. Sono in grave pericolo, dobbiamo correre. No, no, no, non vogliamo andare alla Torre dei Saggi, vogliamo... È la Torre dei Saggi che vuole che noi andiamo da lei. È la Torre dei Saggi necessita dei messaggi che noi dobbiamo portare. Memphis ha grandi conoscenze lì, e sicuramente i saggi... Sì, non va dalla Torre da tipo 100 anni, Per te sono come un'inezia, Memphis. Metà della mia vita. E magari non dirlo davanti al sergente. E Memphis è un rispettato personaggio dalle parti della Torre dei Saggi, e sicuramente un messaggio portato da lui sarà preso in maggiore considerazione da parte dei saggi della Torre. Ben detto. Questo è molto dire. Interessante, ma noi non abbiamo messaggi da mandare alla Torre dei Saggi. Ma forse non avete messaggi riguardanti il pericolo che stanno correndo, di cui tutti parlano? Vedete che c'è una piantina del regno alle sue spalle. Oh mio Dio! Foto! Lui si gira e fa, vedi, questa è la Torre dei Saggi, noi siamo qui. Esatto. Lui io non vedo. Sì. C'è uno sgabello. No, lui non vede letteralmente. Beh, dopo il tuo amico te lo disegna. Memphis, c'è una mappa. È vero, no, so no, scherzavo, era per fare dell'umorismo. Io ho tutte le mappe in mente. Ah. Comunque l'umorismo pagina... invece se n'è andato da tempo. A pagina 3 del tuo libro c'è la mappa. Poi... Vedi, lo sapevo di avere la mappa davanti. La mia memoria è così forte che posso... Quindi, se c'è qualche problema alla Torre dei Saggi, se ne occupassi. Non ci occupiamo noi, che dobbiamo andare alla capitale e poi essere direzionati dove c'è bisogno. Quindi, se noi ci arruoliamo, non possiamo andare alla Torre dei Saggi, lei ci sta dicendo questo. Allora, che cazzo ci facciamo? Vabbè, bella, ciao. Non c'è nessun modo per... Abbiamo un messaggio molto importante, sergente, da recapitare alla Torre dei Saggi. C'è un qualche modo per cui voi ci possiate prestare un cavallo barra per andare lì? Magari potremmo riportarvelo poi alla capitale. Allora, diciamo che c'è un modo. Ah. Crediamo che ci siano dei gruppi di accoliti da notte eterna, dei recisi, come noi, sono la tessera dei recisi. In realtà è Barbara che dovrebbe dire queste cose. Lungo la strada. Sì. Sicuramente non faranno ostacolo alle colonne principali, perché sono dei gruppetti. Beh, potete vedere quanti soldati ci sono qua in paraggio. Vabbè, tiratela meno. Però... Calpesto Memphis. ha detto sono un piccolo essere che deve stare al suo posto. Sì, mi è perso di sentire anche io così. Però potrebbero disturbare sia le nostre retrovie con le vettovaglie, sia le comunicazioni e con la capitale. Sì. Quindi noi possiamo dare dei cavalli. Voi dovreste dirigervi verso la capitale, poi potete non arrivarci e deviare. Però dovete assicurarci di sgomberare il passaggio. Ok, da questi compito, accoliti. È un compito valoroso. Direi che possiamo trovare un accordo su questo aspetto. No, mi sono perso, scusate. Praticamente ci sono degli accoliti che rendono difficile il passaggio non tanto alle truppe ma alle vettovaglie, se ho capito bene. Ma sono sempre quelli della cosa lì, della notte. Sì, la notte eterna. Cioè, quindi fondamentalmente noi arriveremo lì e diremo: ecco, la notte eterna è da un'altra parte, noi siamo... Esatto, noi arriveremo lì: fratelli, finalmente è arrivato il momento di togliersi i maroni. Come? Vabbè, non ha importanza come. Però sì, che ci danno i cavalli, se andiamo lì sgombriamo il passaggio, poi dopo dovremmo andare alla capitale, però possiamo anche andare un attimo alla Torre dei Saggi e poi ci riraduniamo, penso. Questa è l'idea, no? Sì. Beh, sergente, mi sembra un ottimo accordo. Bene, ovviamente dovete provare... Dovrete provare di aver eliminato queste minaccia. Certo. Decidete voi come... Come provarlo. No, vuoi che ti proviamo che siamo in grado di farlo o che lo abbiamo fatto? No, quando arrivate l'avete fatto. Cioè, quando arrivate lì non ci sono? Questa mi sembra una buona prova, per esempio. Non l'ha detto, magari... Vabbè, questo lo decidiamo adesso, ci pensiamo, intanto andiamo. No, tanto voi adesso venite ruolati, quindi dovrete fare rapporto nel vostro rapporto successivo, okay. Dovrete presentare le prove del vostro lavoro. D'accordo. Beh, potremmo portarvi delle tuniche, dei sporche di sangue. Sì. Ecco, spargi il sangue di cerbiato lì sopra. Potremmo portarvi qualcosa che è appartenuto agli accolti, come una tunica o una tunica. Non hanno altro. Sì, decidete voi cosa portare. Semplicemente sappiate che usciamo e rientriamo. Sì. Usciamo e rientriamo. Ora siete lì. Siamo già riusciti. Ma come cazzo? Io ho visto i cavalli. Oh, io però... Quindi due cavalli, no? Due cavalli, sì, perché Memphis vedo cosa si possa fare. Va bene. Andate da Franz con questo, vi dà una lettera con le disposizioni. Lei è un uomo valoroso. Pum, in faccia. Dov'era questo? Sì, grazie. Visto Franz che c'era un modo? Vabbè. Caccia sti cavalli, stronzi. Caccia i cavalli, vero? Sono sellati lì dietro. Sarà meglio che siano sellati. Sono due cavalli. Sellati cosa? Li devi attaccare al carretto, cane. Beh, sellali comunque. Questo non mi era stato detto. Vabbè, cavalco con uno di voi allora. Io ho l'ordine per sellare due cavalli. Sì, sì. E l'hai eseguito alla perfezione. Ci mancherebbe altro. Vabbè, ora... dai, andiamo con sti cavalli. Cavalco con qualcuno. Ma abbiamo un carretto, non niente. Le tuniche. Ah, a parte le tuniche, vabbè, le possiamo mettere in qualche borsa, bisaccio. Ah, le armi. Forse avete preso le armi. Ah, non le abbiamo distribuite ai tizi? No, qualcuno le abbiamo. No, mi pareva di sì. Le ha lasciate indietro. Sì, le abbiamo date ai tizi. Ho detto, armatevi, presto, presto! E va bene, dai, andiamo. Cavallo di bande. Armate che chi benissimo, non si sa chi. E ci danno dell'altro equipaggiamento? No. Razione. No, è proprio provvisto. Ok. Cavalco con Dalgeron. Esistivo. Carne seccata, formaggio, pane. Cavallo a con Barbara. Eh sì, con Barbara. Già il cavallo di Barbara la soffre. Cavalcare con me? Già il suo cavallo soffre, cosa faccio? Tanto cosa cambia. Io li tratto bene i cavalli. Non sono cavalli da guerra, ovviamente. Sono cavalli più piccolini. Cioè, mi immagino c'è tipo Barbara e poi c'è il cavallo piegato. Tipo cartone. Due, quindi due cavalli, sì. E cinque per Barbara. Va bene. Come si chiamano i nostri cavalli, Franz? Pure i nomi ai cavalli. Certo, ogni destriero ha... Diamo fastidio a Giulio. Ombro e Manta. No, prego. Si chiamano... Questa qui è una femmina, questa marrone, con una stella bianca sul muso. Si chiama Serena. Si chiama Barbara. Serena. Va bene, sarà quel... E l'altro? Chiedevo che dicesse questa qui è femmina, è marrone con il coso sul viso, si chiama Barbara. Con il coso sul viso si chiama Gialla. Il re che è giallo. Ah, però non so. Quindi come si chiama? Serena? E l'altra? L'altra si chiamerà Pioggia Loretta. D'inverno e sarà il mio cavallo. No, la prima come si chiama? Serena. Ah. E l'altro Tempesta? L'altro Stout. Stout. Va bene, Stout sarà il mio cavallo. Vabbè, Wetzel, grazie che non sei girato di là. Attenzione, quello si chiama Attenzione. Si chiama Gioco di ruolo. Molto bene, al galoppo. No, aspetta, che cavallo sono io? Se sei con me su Stout. E perché diamo la femmina a quello più grosso e a quella più grossa? Perché è una tra donne ci si intende. E sta cresciuta dai cavalli. È vero. Va bene, andiamo. Puoi chiamarla mamma. È troppo giovane. Allora puoi chiamarla figlia. Forse. Nipote. Stai lontana da Stout, va? Ho già capito io. È troppo giovane. Vi incamminate? Cioè vi incavalcate? Vi incavalcate. Come scusa? Ingaloppate. No? Ingaloppate. Barbara lontano. Esatto, e poi si vedeva un cavallo maschio, chissà che cazzo faceva Barbara. No, vabbè, infatti bisogna sta lontano, ha già detto che è abbastanza giovane per lui. Lei. Ah, giovane, carne fresca. Toy boy. Esatto, per poi magari tipo al primo focolare, guarda questa carne, il cavallo, no, ma come ne avevo due, no? È sì. Stato cresciuto dai cavalli letteralmente, nel senso che li ha mangiati. Oh, nel senso che fanno parte omogenizzato di cavallo. Dopo una giornata di viaggio vi accampate. Ah, noi sappiamo più o meno quanti giorni dista sto blocco. No, sapete che è lungo il tragitto. Sicuramente non oltre la piana del destino, perché è presidiata. Però il tragitto fino alla piana del destino è tutto buono. Ok. Beh, noi non abbiamo nessuna divisa, quindi teniamo gli occhi e le orecchie aperte. Anche dei cavalli. Stai calmo, catta. Un tiro. Prudenza. 3 più 3, 6. 3 più 2, 4. No, raga, non posso vincere. Farlo io. 7 è successo, giusto? Sì. Dai. Volete schermo o no? Sto per andare in bagno, quindi no. Cosa. Ho fatto 2 più... Cos'è, prudenza? Sì. 4. Vale. Okay. Perfetto. Ricordo al tessitore che io ho anche una sciagura addosso. Una sciagura? Sì, ma ne avete un po' di sciagure rose. E ho anche un punto fato, tra l'altro. Come si usa pure il fato come Star Wars? Sì, almeno. Oppure anche per boostare. centesimi. Per bustare roba. Bustare. Bustare. Siete lì che... Chi dorme, chi scrive, chi... Chi gioca con i cavalli. Chi gioca con i cavalli al posto di fare la guardia. E niente, venite... Sentite un grido. Tipo ruggito. E poi venite circondati. Come? Ma Tato dov'è? Vezzino? Tato? Che cazzo è sta roba? Tato? Che cazzo volete? Tato ti invocava. Di nuovo. Ascolta, una cosa. Quando uno ha le sciagure, sì, tu se le usi, glielo dici? E... Sì, sì. Quindi a me non l'hai ancora usata, insomma. No, non okay. Sarebbe, ho pensato di usarla per far trovare i cosi vestiti. Ma poi hai capito che era troppo scontato. E sì, poi che avremmo avuto 5.000 milioni di guerrieri addosso. E comunque, come ho detto agli altri, sentite un ruggito e venite circondati. Ah. Siamo morti, Tato. Un ruggito di cosa? Un ruggito bellissimo. Barbara, ti sembra? Comunque io stavo tu stavi dormendo, Vez. Io stavo scrivendo e catabadava i cavalli. Ah, siamo in accampamento adesso. Sì, siete un po'. Quindi sono i cavalli l'urlo berluino. Sì. Ok. Aiuto, aiuto! Non credo che i cavalli potessero chiedere aiuto. Sta prima voi, perché questo gioco sta sempre più meglio. Sì, potetevi stronzo. Chi sono gli altri? Allora, esatto, buona domanda. Alla luce del fuoco, dello sfogo al campo, non vedete perfettamente, ma sono figure umanoidi. E sì, ma sono tipo che ci stanno dicendo morirete. No, bla bla bla. Hanno le armi fuori, ci stanno attaccando. Ci stanno attaccando, quindi non possiamo dirgli fermi, chi siete, fratelli, parliamo, notte oscura, lunga, eterna. No, tu puoi farlo, che loro possono comunque attaccare. Ah. Si può fare però che vado a vedere gli incantesi. Incantesi te devi creare tu. Quanti sono? Sono 6. Mi ridite, scusate, quali sono le magie che prevedono l'ascendente, a parte l'ammaliamento? Comunicazione, ma giusto? In verità qualsiasi, basta che tu mi dica. Ah, ok. Cioè te lo faccia credere con... Sì, diciamo che quelle consigliate sono, sono ammaliamento. Ma siamo in una sorta di bosco. Sì. Sono ammaliamento, comunicazione e basta, e basta. E quando tiro su queste, tiro doppio? No. No, tiro doppio solo per le specializzazioni. O sì, anche su queste? No, tu hai una specializzazione. Ah, ok. Cosa sei specializzato? No, io sono specializzato in raggirare, intuire intenzioni. Ah, quindi se faccio una roba, tipo un incantesimo che li raggira, posso tirare doppio, tipo una roba del genere? Siete dei nerd. Mi sa che si è frizzato lì. Bella scoperta. Chi è lo sveglione? Vez, mi sa che si è frizzato il video. Perché si è frizzato? No, non aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Non mi vedo, mi vedo muove. No, allora, lì non conta. Ah, lì non conta. Deve no, no, no, vedere... ok, funziona, funziona. No, è molto scattoso quello, sì, però... No, sto andando. Stanno guardando il video con me, siete dei nerd, ci sta. Dicevo, allora io vorrei provare a dislocarmi su un albero. Ok. E quindi tiro su accuratezza. Però in realtà lo farei utilizzando l'aria. Cioè facendo un elementalismo, l'aria soffia forte, mi solleva sull'albero. Ma che vuoi usare la prudenza? No, boh, in realtà succhio con tutte e due, però... Vabbè, se non ti cambia... Che no, cosa? Se vuoi, se vuoi, dentro, cioè, se ti spari in alto... Prudenza, 2, 2, 4, fallito. No, niente. Ti spari in alto, ma non abbastanza, e ricadi. Basta, okay. E gli altri fessi? Quanti sono, scusa? Hai detto? 6. 6. Ok. E... hai, puoi muoverti se vuoi. Mi muovo dietro a Barbara. Ok. Easy. Dal Biron. No, sto pensando a fare qualcosa di un po' diverso. E... allora, sì, potrei puntare uno, le vedono, e gli vorrei fare un incantesimo che praticamente gli dice, tipo, credo sia comunicazione, più che non so, tra comunicazione e ammaliamento, forse comunque, forse ammaliamento, che praticamente gli dice, ma come, non ti rendi conto? I tuoi compagni ti hanno tradito. Questo non è il luogo dove dovevate andare. Vai, prima che sia troppo tardi e se la prendano con te, colpiscili tu. E far colpire di fatto uno o il suo alleato più vicino. Sì, tiro. E invece un 6, quindi punto fatto, mi dicono. Invece più 5, fanno 2. Posso attivarlo subito? Sì. Allora... attivarlo per aumentare il numero di bersagli, aumentare la durata. No, va bene. Faccio il numero di bersagli. A quanto lo posso aumentare? Due. Va bene. Uno per ogni punto. Va bene, quindi due e magari beccheranno due diversi, si spera. Invece. Vabbè, non è... e poi mi sposto. Mi manca il... no, aspetta, cosa... ah no, beh, potrei andare sul cavallo. Posso andare sul cavallo? Sì, non sono sellati. Ah, ma un elfo non ha paura di cavalcare appena. Quanti è che sono, quanti... tizi? 6. Bene. Siamo morti, morti, morti, morti, morti, morti. Siamo morti, morti. Tranquillo. Morti, non capisci. Tranquillo, morti, mi sono... suono dell'inevitabilità, carico il più vicino, il mio primo attacco colpirà automaticamente. Hai usato un filo? È il mio. Ah, è il tuo normale. E se eseguo con successo una prova di vigore, il tuo colpo infliggerà una ferita in più, quindi farò una prova di vigore. 7. Ok, arrivi a uno e lo sventri. Bene, minchia. Sono felice. Speriamo che non fosse il mio. No, ops. Meno uno. Ok, sta a loro. Facciamo... se viene da 1 a 10, 1 a 10. Sì. Siete morti, ma che cosa tiri, no, Giulio? Un di 6. Si attacca loro i due che hai charmato. Ah, se viene? Da 1 a 10. 85. Ah, in questo senso di... 1 a 10, 1 di 10. Infatti anche io pensavo, che cazzo sta tirando un di 6? Oh, ma che sfortuna! Di due attacchi. Sta agli altri. Cosa sa? Hanno attaccato altri, ma non hanno colpito. No. Però questo gli ha un po' dispettito, magari. Gli altri. Barbara, fammi un test di... armatura. No, volontà. Volontà? Che cosa succede? 6. Il irrefrenabile desiderio di spaccare la testa dei tuoi alleati. No, no, no, aspetta. Cos'è che ha fatto? 6. No, ma che cosa ha tirato? Volontà. Allora, io ti ricordi il filo che avevo staccato e con cui ho preso quello che avevo detto, e quello che avevo detto è oracolo. Sì. La virtù è volontà. Ah no, è sfidare il fato. Cosa sto dicendo? Non lo so. Katta, poi prova a sfidare il fato. Ok. Oh, non era spingersi oltre il limite. Ma cosa vuol dire? Cosa sta succedendo? No, praticamente io ho quello che se un mio compagno prova a sfidare il fato su volontà, io posso tirare su volontà insieme a lui e lui prende uno dei due risultati. Ma non avrebbe dovuto fare prima? No, lo può fare anche adesso. Il fatto è che comunque ha fallito. Però può usare il punto fato. E se lo uso? No, ha fallito comunque. Cioè, può usare il punto fato, ma dopo... Però il punto fatto è una cosa positiva. Sì. Prova la fallita, però appunto dovrei spingermi oltre il limite per provare a superare la prova, o sbaglio? No, quello non puoi fare, devi dirlo prima. Solo hai fallito. Beh, però il punto fatto, cioè se usa un punto fatto, cosa succede? Dipende cosa vuol farci con punto fatto, però non può non fallire la prova. Cioè, lui la prova l'ha fallita, non tirata la fallita. Allora niente. Quello che ti pare. Vai, provate a disincantarmi. Sì, beh, sì, vabbè. Tanto... Prima che io vi tagli a metà. Può segare in due un cavallo? Può... Spendi, no? No, vabbè, se adesso tocca a me, provo a disincantarlo. Oppure Vez, puoi provare a raggirarlo di nuovo. Adesso no, sta ancora... Vai, tanto vediamo... Un altro 6. Vedete, appare un settimo nemico molto grosso che vi si fa incontro. Ok. E poi l'ultimo. Un altro 6. Vediamo chi stanno evocando da soli, tipo Salla, cioè Memphis, ti sparano una sorta di palla di fuoco, un danno. Non posso usare l'armatura? No, puoi, io posso fare una reazione. Dove trovo la mia vita che non mi ricordo più? Vigore più 2. Oh merda, sono morto. Beh, uno, no, ci avrei un po' di più di uno. Almeno 2. Avrai. Ok, la prendo. Cosa succede se uno va a 0? Muore. Muore o sviene il master. Farà le cose. Se tutto il gruppo ad esempio sviene, può esserci risvegliate appeso a questi gruppi. O durante il rituale dell'aquila di sangue. Solo che il problema vero è che... Ok, a chi tocca? A voi. A noi. Quelli che Vezza è ammagliato cosa hanno fatto? Ammagliato? Hanno attaccato, ma hanno fallito. Hanno attaccato 2 degli altri, ma non niente. Ok, allora disincanti tu, Katta, o lo faccio io? Se hai un modo, fallo tu. Ma ammagliamento è più... Ma noi lo sappiamo che Katta è ammagliato, però. No, però se si volta incazzato e questo gli ha detto, vai a ucciderli. E io, con piacere. Dipende, abbiamo fatto qualcosa del genere? Sì, vabbè. Qualcosa avrà fatto. Beh, no, però potessi fare qualcosa che magari ci fa tipo scomparire. Non posso. Ai suoi occhi. No? Non tutti e tre. No, non tutti e tre. 2. Ah, dici io e te? No, semplicemente che la rende tipo... Cioè, non ci vede più a noi due. Tu che cosa hai, scusa? Sì, ma in realtà tutte queste magie qua sono basate su ammaliamento o prudenza. Quindi in realtà tipo ammaliamento sei più forte te. Sì. Cioè accuratezza, ascendente, ste minchiate qua. Sì, ma tu che cos'hai invece di forte? Volontà. E sapienza. Tiratemi un D6 ognuno di voi, così vediamo che se va prima. Ah beh, ci può anche stare, sì. 5. Ok. Non due anch'io. Faccio solo due oggi. Ok, allora... Cioè se usi ascendente è più facile per te farlo. Ascendente però dovrei tipo o tipo convincerla che... No, fai un incantesimo di ammaliamento. Ah no, potrei fare tipo un'illusione. Oh, mi ha rotto il cazzo, faccio abiurazione su Katta. Faccio... Aspetta un attimo, se io faccio tipo un'immagine di me che si avvicina e tipo... No, faccio abiurazione su Katta, no, però... e dico, Barbara, non vedi che è un ammaliamento? Ragiona! Non sono stato cresciuto da okay. Degli ammaliamenti. Volontà. Sì. Volontà, un di 6, ho fatto 3. 3 più... 3 più... 5. 8. Ok, incantesimo si spezza. Cosa? Era facile. Ma cosa sono queste cose, scusa, non li vediamo? Questi che ci stanno attaccando? Sì, sono delle persone. Ah, sono delle persone? Ok. A parte questa cosa grossa che è comparsa la settimana. Ah, ok. E... che è un po' indefinita, non capite bene. Tocca a voi due? Sì, lo so, che vorrei capire che cazzo sono sti qua. Cioè, hanno tipo delle tuniche, vediamo qualcosa, no? Sì, potresti dire che hanno dei... Cioè, potrebbero essere quelli dei guardiani della notte, lo scherzo. Sì. Ok, ma so, voglio sempre usare le stesse cose, vabbè, è un classico. E... vabbè, e allora... Vabbè, tu intanto puoi fare Katta se hai qualche idea. Ah, certo. Ho un'idea molto chiara. Becco quello che mi ha spifferato e gli spacco l'ascia sui denti. Ok. Dieci. L'armatura l'ho... È il quarto di fila? Tipo? Farà un danno o tutto il danno? Ricordo, aspetta il computer. Aspetta, ci guardo io. Combattimento. Danni di caduta, no. Danni ad area, punti deboli. No, ma tanto se ce l'avete voi facciamo prima, perché se devo riaccendere... No, magari devi vedere altre cose. No. Lo stiamo guardando? Questa è l'armatura, ti pare l'armatura... No, mi sa che annulla il colpo. Annulla il colpo. Però no, la sua armatura... cioè, hai aperto l'armatura, però lui si è salvato. Mm-hmm. Va bene. Vai. Io faccio un... Che cazzo è scritta l'armatura? Dove c'è il combattimento? Io creo... faccio apparire un cavaliere enorme, bianco, lucente... Mm-hmm. Davanti a quello grosso. Ok. E, non so se può funzionare su quello grosso, però ci proviamo. E gli dico che gli fammi una prova di sapienza. Sì, devi all'intero colpo. Perché mm-hmm. Sapienza? Ok. Ah, per sapere cos'è. O tre o in bilico, non lo so. Aspetta, ritiro. Uno, vai. Niente, certo, farti dare sapienza quello che ha sapienza. No, era per accorgersi di una cosa. Va bene, tre sciagure, madonna. Va bene, lo mando lì davanti, gli dico, questo, io sono il cavaliere che ha sconfitto la torre oscura a sud, prenditela con me se sei proprio sei in grado per convincerlo tipo, ad attaccare. il cavaliere, no, è questa figura immensa che gli si para davanti, tipo, cioè invece di attaccare noi dovrebbe attaccare il cavaliere. 4 più 5 9. Avete fatto voi tutti, sì. E poi ho il cavallo. Dove sono in questo momento? Io al centro, adesso siamo circondati. Niente, mi preparo a attaccare eventualmente. Si può mettere sulla difensiva? No. Vabbè, niente. No, ci sono le reazioni per schivare. Sì, sì, allora la tengo. Ok. Vedi, uno. La figura scompare. Cioè la mia figura? No, ah. E parte una palla di fuoco verso il cavaliere. Ok. Mi ha funzionato. Da quarto di qualcuno. Sì, ha fatto un altro 6, però. Ha spazzato, sì, il cavaliere. Sì. No, ridammelo, no! E poi vediamo quello che Barbara ha distrutto l'armatura, l'attacca, ma non lo colpisce, lo fa anche un altro, non lo colpisce, ah, vedi che era quel dado il problema. Grande, mi piace il sabotaggio. Un altro fa, no, tenta di rimporre il suo dominio su Barbara. Non ce la fa. E l'ultimo... Niente. Non testa, sì, sono i turni che mi grande, fanno. Catta intoccabile. Vai Barbara, spazzali tutti. Anche perché se non spazzi tu, mi sa che non spazzi nessuno. Tocca a me. Palla di fuoco massimizzata su due tizi, cioè su un tizio. Ok. E elementalismo, cos'è? Vigore, volontà. Tiro 2 di 6, 1 e 5, prendo il 5. Ma okay. Scusa, quando fa così può tirare due? Se ha la specializzazione, sì. Su che cosa? Di avere la specializzazione sull'abilità che sto usando, in questo caso la magia. Ma tu che cos'hai di specializzazione? Elementalismo e scienza, che è tipo magia, però lo chiamo scienza perché è più bello. Ok. Che non è elementalismo, è trasmutazione, mi sa. Ma io non capisco. No, è trasmutazione, è elementalismo, sì. Cioè non capisco, nel senso, cioè io per esempio ho specializzazione raggirare, cioè se faccio un incantesimo che raggira, tiro due? Non capisco questa cosa. Se fai un ammagliamento. No? Se fai un ammagliamento puoi dire tiro due. Se tu cerchi di raggirare una persona, tiri due. Quindi, ma non se faccio un incantesimo che raggira. Se tu fai un incantesimo di ammagliamento per raggirare una persona... Non lo so, perché no, lui lo sa cosa... avere specializzazione a ammagliamento. Ok, d'accordo. Cioè tu sei bravo a far credere le persone con le parole. No, sì. Con le parole. No, è per capire però perché lui invece le usa, perché lui lo usa ha sul... la scuola. Lui ha proprio ha messo nelle specializzazioni. Cioè, tu c'è una scuola di magia che ha c'è tutte le scuole di magia. Sono le varie scuole di magia. Più avanti, quando Elementalismo, tu hai elementalismo tra le cose, questo stai usando. Sì. Ah, ok, posso. Vabbè, non posso, volevo capire questo. Dicevo, quindi uso un punto fato per colpirlo più forte. Più forte, sì. Prova a schivare. Non ce la fa. Cane. Viene arso vivo. Sta andando vivo. Bene. Cane, ti piace il bruciato, Hai qualche proposta? Posso andare? Vai intanto. Andiamo su quello che ha spogliato, se è ancora vivo. Che schifo, gatta, comunque. Sette. Sette va bene. Sì. Una schiva. Mi sfasci la testa. Quindi quanti sono andati giù? Molto bene. Tre, ne rimangono tre. Avete visto la scena del dell'Hobbit? Quella del della scena extra che è uscita, penso, oggi. No. È divertente. C'è Legolas? No, ci sono i nani. Okay. Allora forse potrei guardarla. Ma ho visto le scene extra della battaglia, ma mi ha fatto un po' schifo. Quella lì, quella col carro, no? Non ho visto quella di oggi, ho visto le scene extra della battaglia. Va bene, non mi interessa, chiudiamo. Se io carico uno col cavallo devo usare vigore, giusto? Carichi uno col cavallo devo usare vigore. Sì, mi dedicano qualcosa di particolare, che vuoi usare qualcosa. No, si sta pensando... Come non so, gli fai una finta da una parte per colpirlo dall'altra, ti posso concedere un'altra caratteristica, non so. Questi sono attorno, ok. Vabbè, ormai sono tre, quindi anche se è andato attorno. Tre, no, sì, tizio enorme. È sparito. No, era un'illusione. Ah, easy. Posto. Va bene. Dislocazione, che roba è? Dislocazione è tipo per spostarsi. Sì. Per spostare anche gli oggetti. Così. E lì devo usare Sapienza per usare sta roba qua. Dipende come lo giustifichi. Sì. Detto, no, lo so, però è difficile giustificarlo diversamente. Beh, in realtà se dici tipo, non so, faccio una roba furtiva, un'emagia, inteso... No, ero per curiosità, per capire alcune cose. Che cosa avevi in mente? Sì, sì. No, non stavo pensando... Volevo in realtà attivare un mio filo, ma volevo farlo in modo figo. Mm-hmm. E sto pensando come. E vabbè. Facciamo che io faccio... praticamente... Voglio fare una illusione, mm-hmm, come se uno di loro fosse tipo, cioè improvvisamente tipo sorgesse tipo l'alba, mm-hmm, e tipo c'è, cioè, un sole e gli sparasse tipo un coso di fuoco addosso e lui si sente tipo bruciare di paura a tal punto da impazzire. Okay. E vorrei... questa cosa qua io non so se può essere ascendente, cioè come inganno, e tipo guarda la luce, abbi paura della luce, tipo una voce fuori campo. Sì. E poi siccome tipo è una roba di illusione, mm-hmm, vorrei far attivare il mio filo tutto fare, che dice che una volta per scena puoi scegliere di fare un tiro di abilità, questo vale come abilità comunque, sì, come se avessi una specializzazione che non possiedi. Sì. Quindi farei questa cosa qua. Quindi sì, tirerei... usava sempre Roberto. Quindi tirerei due. Quella è tutto fare nelle abilità. Eh? Ha preso tipo la specializzazione tutto fare. Sì. E quindi la usa per qualsiasi cosa. Mm-hmm. Ah beh, una volta scena, in effetti. Boh, vabbè. Allora, l'uno non lo prendo. Prendo il 3, se posso aggiungere ascendente, 8. Ok. Voi avete fatto tutti? Sì. Sì. Ne sta loro. Uno pensa di star bruciando. E si annega. Si annega. Due provano... no, ne è rimasto un altro. No, ne sono rimasti altri due. Proviamo a sparare. Niente. Ma l'urlo belluino che avete sentito prima adesso piomba su Barbara. Cos'è l'urlo belluino? L'urlo belluino è un... Anche lui incappucciato e vestito di nero come gli altri? No, lui non è incappucciato e vestito di nero, però è probabile che... gli orchi... In teoria sapete che venerano sono consumati dall'oscuro potere della notte d'oro. Anche noi. Ma non ti becca. Quindi sta di nuovo. Bene, direi di accogliere il nostro nuovo amico in maniera più calorosa possibile. Tu ci diavolo! Lo invito a sedersi ad assaggiare un po' della mia ascia. Come benvenuto. Sei. Anche lui è un'enorme ascia. Oh, enorme della mia. È grossa, più rozza, però grossa. Cosa sta facendo Barbara? Poi gli ho dato una sciatta, ho fatto 6, vuol dire che ho un punto fatto. Sì. Puoi anche sfidare il destino, Kat, se vuoi. Dopo. Prego, fate Bobis. Quindi ora c'è un orco. E tre. Io voglio che la sua ascia appaia davanti a me. Ok. Immagino di dovermi avvicinare un po'. La scena è un combattimento, tipo. Immagino di dovermi avvicinare un po', però. Per farlo. Beh, glielo puoi semplicemente chiedere, secondo me. Tutti lì, quindi a distanza. Ok. Tiro, eh? Ok. 4. 4, 5, 9. Quante sciagure hai? Una. Ok. Io ne ho 3. Ah, te la uso comunque. Mi arriva in fronte. ti arriva in fronte, esattamente. Può schivare? No, sciagure. Quindi cosa faccio? Prendo un danno? Prendo un danno. Provo a usare l'armatura, però. Sì. Tiro un D6, 2, niente, prendo un danno. Come funziona? Se fai 6 ti salva dal colpo. Ok. Aia. Occhio con quelle cose, piccoletto, ci si fa male. Aia. Va bene, voglio a sto punto vorrei praticamente torniamo, facciamo il classico incantesimo sull'orco. Che lo so, questa notte eterna. E allora gli faccio tipo una voce che lo richiama all'ordine, all'orco, gli dice: fermo, inchinati davanti al a questa possente campionessa della notte eterna. Lei è il più grande campione e tu non potrai sfidarla. Tiro. 1. Quarta sciagura. Sciagura. Diciamo si va le sciagure. Non lo so, sì, 6. Sì. Ne ho 4 io. Sai che Vez esplodi o questo la prossima? No, credo che Shagur sia pari al numero di file del destino, quindi poi va solo lui. Ah, quindi no, quindi questa te la uso subito. Ma scusa, quindi quelle altre che ho non ci sono? No. Ah, non le posso accumulare così, grazie. Purtroppo anche no. I punti fatto però allora. No, i punti fatto è massimo. Io come massimo il vigore 3. O la volontà, scusa. Vabbè, comunque. Comunque non puoi avere più di una sciagura, Vez. Cosa vuol dire? Ho 2 sciagure io. Non puoi perché è in massimo ai fili che hai consumato, quindi Giulio la devo usare subito. Io già ne avevo 3 in teoria, quindi ne avevo tipo 2 da boh. Le userà tutte adesso. Mi sciagura. Adesso esplodi. Quindi muori. Ha un rimbalzo psichico e tu sei convinto di essere un adepto della notte nera. Ah. La notte eterna. Aspetta che vado a prendere. Sì, no, con una prova di vigore può prendere una sciagura comunque. Cosa vuol dire? Se non ha cambiato? Qua dice, quando il dado lanciato durante la prova di virtù ottiene un 1 o un 6 naturale, cioè il numero del dado è 1 o 6, in un risultato totale, il personaggio otterrà rispettivamente una sciagura o un punto fato. Sì. Quindi Vez te le spamma tutte addosso e ciao. No, non ho capito. Io quanto ne posso accumulare, due, però? Adesso, okay. Perché hai bruciato... No, hai bruciato due, no? Quindi. Allora, il discorso è questo. Che io ne avevo tre, però se non posso averne tre, non ho capito. Non le avevi tre. Ah, ne quindi ne avevo una. Due. Non avevi una prima, perché una. Comunque adesso ne hai due. Non essere al massimo pari. Adesso ne hai due. Adesso facciamo che ne hai due. Ma io non capisco se queste sciagure... Tipo... Non potrai averne più di due. Cioè, ma tu se ne usi una mi si toglie. Funziona sì. Così. Oh. Va bene. D'ora in poi quando ne uso okay. Però tipo se ne ho due, ne viene una, tu puoi usarla subito e rimango con due, tipo una roba del genere. Sì, posso, credo di poterlo usare subito, ma non può accumularsi. Sì. Ok, va bene, d'accordo. E quindi io penso di essere un adepto dell'oscura. No? Tu hai fatto? Io ho attaccato una volta. E sono stato il primo a fare qualcosa, mi sa. Se gli altri hanno fatto un'altra cosa, siamo... Sì, sì, abbiamo fatto tutti. Sì. Tocca a loro. Tocca a lui, disarmato. Lorco raccoglie un sasso e fa per sfondargli la testa. Gli orchi non hanno bisogno di armi per nuocere, lo so bene. Ti colpisce. Sono stato cresciuto da orchi. La mia risposta può essere schivare? Oppure... Vuoi provare a parare con l'armatura o si può schivare? Okay. E per schivare devo dire in che modo schivo per è standard, cioè nel senso se lui usa un sasso io però sono talmente tosta e grossa che lo spacco con la mia testa. Vabbè, lo paro 3 più vigore 5, 8 non pari. Ok. Le altre due sì, niente e una spara su Vez. Anche se sono adepto della notte nera, esatto. Io sono adepto loro non sanno che sia venuto con me e fa 7. Ok, cosa devo? Posso usare l'armatura? Schivare? No, l'armatura sugli attacchi magici no, puoi schivare. O provare a schivare o annullare il coso. Anche oppure... se sono adepto, sì. Sì, sì, vabbè, stanno facendo il danno, lo puoi evitare. Quindi cosa tiro un dado e tiro puoi su? Decidere... non so, puoi anche usare la reazione per fare un incantesimo di abiurazione per annullare il suo incantesimo. Tirerei in quel caso su accuratezza per beccarlo, tipo, una roba del genere. Anche, okay. Sì, puoi fare anche un incantesimo. O prudenza per tipo... Se posso farlo su prudenza... Ma scrivimi sì. Cosa fai, allora, aspetta. Allora, aspetta, che attacco è intanto? Che roba è? Una palla di fuoco, tipo, no? No, questo è più un fulmine. Un fulmine. Allora, fammi pensare... Sì. Io direi che faccio una roba tipo di... cioè, praticamente plasmo un po' la realtà... Per essere un punto diverso rispetto a dove andrebbe okay. Il fulmine. E... O meglio, faccio tipo come se tipo, sì, la casualità facesse che il fulmine colpisce, diciamo, da una parte. È un'immagine possa... speculare, diciamo. No, cioè, tipo, è come il potere di Salla nel. Nel no, in Urban Heroes. Cioè, il fatto che tipo. Cioè, mi beccherebbe lì. Ma in realtà, diciamo, la realtà, diciamo, improvvisamente cambia un po' tipo le ci passa davanti le cose. Il mio potere non è così, però vabbè. No, il tuo potere è che il caso fa sì che si rifaccia tipo una roba io del genere. Io conosco il caso. Vabbè, insomma, plasmi un po' quello che è. Sì. E va bene. Non so che scuola possa essere, ma va bene. Direi trasmutazione, no, sì, dislocazione, sì. Dislocazione, sì, potrebbe essere. Ostea su prudenza? Dislocazione, cos'è? Consigliate... Cioè io non ho capito bene queste cose qui come funzionano, cioè se è sapienza, se è volontà, se... Secondo me tipo ci sta se è lui che si sposta, tra virgolette, prudenza. Prudenza sì, sì. È tipo il movimento, no? Cioè, tipo, faccio... Per ogni scuola c'è il suo... accuratezza o prudenza. cioè di fatto il fatto, cioè diciamo parte il fulmine, io cambio, diciamo, tra virgolette un po' la, la realtà, e invece di essere nel punto dove sono, in realtà sono spostato, perché nei mondi oppure potrebbe anche essere, oppure potrebbe anche essere tipo divinazione, per cui tu sai già dove colpisce e ti muovi più veloce. Ma è sempre prudenza. Sì, sì, vabbè, sì. Comunque se posso... Dimmi tu, come vuoi. No, sì, volevo far così, che, cioè, per culo, non ero lì dove sono, ma in un altro punto. Cioè, no, sarà una... Non guardo, una monetina. Sì. Comunque sei, quindi niente. Un danno. C'è tutto sto casino e hai succhiato. Vabbè, raga, io prudenza ho tre. ho capito, non so come... Quindi ora agisco solo io, no? Io vado bene se devo parlare con la gente, ma se devo fare danni o... Sta ancora uno di loro. Ah no, due non tocca niente. Sì, state andate voi. Sta a me, quindi. Sì. Perché voi avete già agito, mabuini. No, adesso devo attaccare anche io. Nessuno di noi ha agito. Non hai usato la risposta? La reazione? Se la risposta non salta il turno. Sì, è, anticipi, è come se tu anticipassi il turno successivo. Pensavo fosse come in Urban Heroes che hai sia l'azione che la risposta. No. Allora, quello che voglio fare io è fare e convincere il mio amico albero dietro al mio amico orco, al mio meno amico orco, sì, a usare i suoi rami per tenerlo fermo. Okay. E tiro su elementalismo. 6-6 power. Quindi punto fatto. Non so se posso accumularli su incantesimi. Usarlo adesso, sì, però. No, i punti fatto su incantesimi, certo. Allora lo uso adesso e prendo l'orco per due round. Ok, i rami dell'albero si piegano, non sapete bene come, perché si dovrebbero spezzare, ma invece si piegano e afferrano l'orco. Amico albero, capito? Questa è sapienza. Cioè volontà. Pensavo botanica. Cioè botanica. Vabbè, tocca loro, immagino. Cioè, tocca Vezzo che... No, la sua reazione l'ha usata. Io cosa posso fare? Posso muovermi? Tu puoi muoverti. Vabbè, non posso attaccare, però posso prendere fuori lo stocco. Ma scusa, non ha usato la reazione, Vezzo? Sì, infatti sì, non può fare non posso reazione. Attaccare, però posso muovermi. Sono a cavallo io, prendo fuori lo stocco e parto di carica verso Katta gridando per la notte eterna. Porca puttana. Siamo fottuti. Devo fare una prova di cavalcare tipo per convincere il cavallo a caricare. No, ah no, scusa, l'orco prova a liberarsi dai rami. Ma non c'è fa? Volevi! Gli altri due attaccano K. Volevi! Niente. E un altro spara su Salla. Cane. Ma fa uno. Sciagura, muore. Sciagurate! Sciagurate! Vai. Bene. Fa per spararti, ma si vede che dal dito non parte il fulmine, anzi c'è una piccola esplosione e lui viene buttato a terra. Bene. Che nabbo. Sta a noi? Sì. Che nubbo. Le redini del fatto. Per fare più male all'orco. O a quello che ti sta caricando. O a quello che mi sta caricando. Sì, vai, uccidi pezzi. Poi sciottalo. Lo attacco. Per, dato che è l'inchiodato all'albero, ne approfitto per decapitarlo. 10. Poi devo tirare un altro 6 più il 5. Com'era? Se vuoi sudare il fatto, sì. Uno sciagura. Cani! Aspetta, no, uso io un filo del destino. Oh, fai giocare gli altri. Scherzo. e livello di brutto e prendo come cazzo si chiama? Martire. Ricevo io la sciagura e faccio ritirare il dado a Kat. Ok. 3. Vabbè, almeno. Sta a Vez. Vabbè, allora che ha incassato o non l'ho fatto? No, non ha incassato. Cioè, non ha, l'armatura non ha stoppato, ha fatto due danni. Ah, ok. Il mio fatto di pensare di essere ancora l'ha detto la notte eterna continua. Aspetta, io la giustifico che magari la sciagura. Vabbè, no, non l'hai usata, ci sta, vai. Allora niente, termino la mia carica. Vai, su Catta. Su Barbara. Tiro vigore. Porca puttana. Allora, tiro vigore, cioè ho due in vigore. E poi 4 più 2 6, dai, visto. Ma che stai facendo? Manco cazzo. Potrebbe, adesso vedrai. Se facevi uno, colpivi l'orco. Ma adesso acquisisco maggiore credibilità sugli altri, però. Ah, è tutto certo. E io mi curo. Sì. Cosa devo tirare? Vigore? Sì, guarigione e vigore. No, sono fottuto se devo tirare. Bevo una pozione. Quanto mi dà la pozione? 1. Oddio, che nabbo. Vabbè, bevo la pozione lo stesso. Curatezza, guarigione. Ed è un'azione bere la pozione? Direi di sì. Va bene. Allora, l'orco prova di nuovo a liberarsi. Ma fa 1 e si incastra. Cioè, praticamente da un pugno alla corteccia, la buca e il braccio rimane incastrato. Volevi. E l'albero poi lo libera. Esatto. Perché è finito l'incantesimo. I due tizi attaccano Barbara. E non fa niente. E uno spara su Salla. Ma che cazzo. Ah, non colpisci. Eh beh, io ormai ho visto che sono dalla loro parte. Io grazie al supporto. Beh. A voi. L'incantesimo ne fate l'incantesimo. Ah, ok, posto. Ok. Direi che quello che continua a sparare Sal mi sta infastidendo. No, ammazza l'orco, Catta. Non è imprigionato. Appunto, approfitta per un round. Ah, ok. Va bene, attacco l'orco. 10. Grande. Cattivo. Niente, non para. Non è ancora da incassare. Minchia. Aspetta, allora io vorrei. Quello che ha provato ad attaccarmi ha provato con un incantesimo. Sì. È così che si evoca il fulmine. Zadabam. Okay. Ho fatto un 1 e un 2. Prendo il 2. Sull'orco. Tu. Ho colpito. Vabbè, 2, 5, 7 direi che l'ho colpito. Vedi che il fulmine gli trapassa una spalla, non sta molto bene. Capito, Ciccio? Sta attento. Allora, io ora che hanno visto che sono dalla loro parte, mi rivolgo a tutti loro, non è un incantesimo, è un semplice raggirare, e gli dico, presto, adetti della notte! Dove l'avete visto? Il vero nemico è questo immondo albero, colpiamolo! E poi io colpisco l'albero. Okay. E provo ora a girarli, tiro con 2, perché ora girare, su di loro per convincerli che è la cosa migliore. Che brutta versione. E faccio 6! 6 più 5, 11. Ci sta, li convinci tutte e due. Ma io sul raggirare, sì, su perché può essere solo una persona sola, sarebbe. In realtà puoi anche sfidare il destino e farlo per 2 round, se fai tipo 6. O 6 punti di fatto. O 5. Beh, uno ce l'ha necessariamente. Allora, aspetta. Se sfidi il destino e fai o 5 o 6. Ah, 3 è l'orco. Beh, l'orco è lì imprigionato. Però... Ma il raggirare, di fatto... Allora... È su una persona, cioè può essere su più persone. Non mi ricordo esattamente cosa dice, ma sulle abilità, di fatto non dice qua su quante persone influenza, mentre gli incantesimi ti dice che per influenzare più persone devi spendere punti fantasy. Le abilità, secondo me, ha senso che per cose random, tipo sei in una taverna e fai la tua canzone, agisce su tutti, ma sì. In combattimento ha senso che raggiri uno. Vabbè, allora... funzioni come un incantesimo, i punti Faton ne raggiri di più. Va bene, allora fatto che uso un punto... Perché se no... L'hai fatto 6. Sì, uso il punto Faton lì... per farlo su due di loro. E intanto colpisco l'albero. Secondo me ha senso così, perché sennò uno mi fa intimidire, intimidisce 1000 persone. Sì. Ci sta. Quindi sta a loro. Sì. L'orco... Colpisco l'albero. L'orco è incastrato, prova a liberarsi. Non ce la fa. Oh, ti piace l'albero, comunque. È l'incantesimo più forte di tutto Clotes. Due colpi, cioè, attaccano l'albero. Che manco. Usare gli alberi. Uno inciampa, e cade. La marcia, e poi c'è lui che c'ha il braccio bucato dal coso, che prova a rintuzzare l'incantesimo di sangue. E che palle. Okay. Ma no, ma io dico di colpire tipo il tronco, cioè tipo una roba stupida. Senti, se non riesci a farlo il fulmine, non lo fare. Due l'hanno fatto. No, però non volevo tipo rovinare l'albero, cioè insomma non so come dire. No, uno l'ha mancato, l'altro ha inciampato. No, proprio, cioè non pensavo che tipo riuscissero a liberarlo, veramente. Cioè io in realtà volevo andare tipo sull'albero così a caso, cioè non pensando che influenzasse sull'incantesimo. No, questo è l'altro, il terzo che manca. No, ma cosa c'entra, non ho capito niente allora. L'orco ha provato a liberarsi, sì. Non ce l'ha fatto. No, però se lui avesse stato un 6, tipo cosa avrebbe fatto? Dato un colpo fortissimo all'albero. Colpito l'albero e l'avrebbero tagliato. Ah. Tagliato qualche ramo. Ah, beh, l'avrebbero tipo rotto l'incantesimo. Che incantesimo? C'è l'incantesimo di sangue. No, è finito. No, il coglione si è rimasto impigliato da solo. Ah, avevo capito. Illeso, schifoso. È rimasto lì. Ah, un po' lungo. Va bene. Che prima per liberarsi ha fatto uno. Ho capito. Va bene, ci sta. Massima credibilità, allora. Porta di più, tavolo. Bene, vediamo se sto orco va giù. Oh, uccidi sto cazzo di orco. 10. Ho solo 2-5. Niente. Non colpisci. Altri due danni. È ancora vivo. Ma è immortale quell'uomo. Yeah. Noto che le ferite si rimarginano, robe strane. No, sta incassando. Vabbè, senti, se il tizio non sa usare il fulmine... Glielo devo far vedere io di nuovo. Un albero con l'orco incastrato, lo ammazziamo. Cosa? Io riprovo il fulmine sul tizio per fargli vedere come si fa. Magari il prossimo round ce la può fare. Ok. 5 e 5, 10. Ok. Stavolta lo becchi nel petto, lo perfori. Adesso hai capito. Ha capito, però non lo potrà rifare purtroppo. Va bene, io allora sfrutto questo filone e adesso faccio tipo un'illusione per cui sembra che tipo l'albero tipo abbia una bocca, comincia a fare tipo degli occhi, tipo la faccia, non potete sconfiggermi, attaccatemi se avete il coraggio, continuate, per convincere il tizio lì a attaccarlo. 5 più 5, 10. Che brutta persona. Pessimo giocatore. Perché? No, va bene in realtà. Io faccio quel che posso con quel che ho. Uno attacca l'albero e questa volta lo becca. Grande, visto? Fortissimo, cazzo. Taglia nera. E dico, visto, è lui il nemico. L'altro attacca, canta, non ce la fa. L'orco si libera. Si taglia il braccio. E prova a colpire Katta. No, cosa fai? È l'albero che devi colpire. È l'albero malvagio che ti ha imprigionato. Ma non colpisce. Wow. Minchia, quanto è scarso. No, sono io che sono troppo forte. Vai Katta, finiscilo. Vai. Sto così bene con tutti quei 6. Sì, infatti, incredibile. Oh, eccolo 6. Vai, uso sto fatto, posso usarlo. Sì. Puoi colpirne 2. Sfida sto destino. Vedo sto destino. Due. Ma cosa succede? Sciagura anche con loro. Sì. Uno, due, sciagura. La prendo io. Ritiro. Quando sfira, ma quando... Quando sfido devo fare 5-6 perché succede qualcosa di buono. Ma l'antura è già colpito però. Quanto hai fatto? E questa te la tieni però, non posso prendere io. Ah, si raddoppia? No, se la tiene lui. Una la prendo io, una la prende lui. Grande, catta. Punto fatto l'hai usato. Era quello che ho tirato. Tu hai ottenuto un punto fatto, tu i punti fatto li puoi usare per fare cose, lo accumuli o lo usi? L'ho usato per tirare questo. No, quello lo si può fare automatico quando tu fai, cioè, quando tu fai qualsiasi prova, anche se non fai 6, puoi sfidare il fatto. Ma non perché hai fatto 6, cioè hai sfidato il fatto a priori. Non usi un punto fatto per sfidare il fatto. Capito? Ogni volta che fai 6 prendi un punto fatto, ogni volta che fai uno potevi avere un altro punto fatto. Sai, di far spendere un punto fatto per sfidare il fatto. No, però avresti avuto un altro punto fatto, Kat. Ora puoi usare quel punto fatto semplicemente infliggere più danni, puoi colpire due tizi anche, infliggo più danni a loro. Ok, lo praticamente lo tagli a metà. Però la tua ascia si rovina. Ok. E dovrai ripararla, portare da un armaione, farla riparare o riparare. Prendere quella. È un po' bruttina quella. È un po' sporca del mio sangue quella dell'oro. Quella è solo un preso. E sta a voi. E quindi cosa rimane? Un tizio, due tizi? Due tizi, due accoliti. Allora, fredda, letteralmente fredda. Ancora vivo? No, tagliato a metà. Fredda lì. Non è detto che basta. Vorrei. Pensavo tagli a metà l'orco, ma anche l'albero e ti cado addosso. Non cade. No, la prossima volta non saprei cosa fare. Vai. E allora ne sono rimasti due, no? Ok. E siamo tutti lì dall'albero e da catta, giusto? Ok, allora io uso la mia pipa e faccio tipo apparire una forma davanti a uno che è uguale a Barbara, e dice: ah, quando uccido il mio nemico mi divento ancora più forte, ora siamo in due, combatti con me! È sempre ammaliamento classico. 3 più 5, 8. Okay. E quella, l'illusione di Barbara dà una sciata al tizio che è davanti, e con trasmutazione il fumo è un'ascia. Che figata. 3 e 5, 8. Lo colpisci. Però fai un solo danno, posto che due di Barbara. Vabbè, certo. No, lui si caga in mano. Sta a loro. Vediamo se... Ah, uno attacca Barbara. Okay. Quale? Barbara. E l'altro, vediamo se attacca il fumo Barbara. E ora se fa da 1 a 3 attacca il fumo, da 4 e quindi attacca Barbara. Ma scusa, ho fatto 8 io? Non è riuscito a convincerlo. Primo, secondo, non si è cagato in mano tantissimo. E quindi attacca il fumo, ma non lo colpisce. Ah, non puoi neanche colpire! Adesso direi che l'albero torna l'albero, dio, di potenza. Che dice, sì. E a me invece. Allora io adesso con l'albero provo a dare una schicchera al tizio lì di fronte. Okay. E elementalismo? No, come no, dice, brutta testa di. Ah, 1 e 6. Prendo il 6. E gli do un colpo a quello davanti all'albero. Sì, è Counterspell. Ok, a quale? Quello della Barbara di Barbara? No, no, quell'altro. Ma tu questi li fai con sapienza? Rigore, volontà. No, volontà, quasi tutti volontà. Sta ancora voi. Tanto spazza ne uno, spazzo quello che lancia gli incantesimi. Sei ancora io. Sapienza no, uso di solito. È Salla quel che lancia gli incantesimi. Ops, troppo tardi. Vai, uno degli ultimi due. Quello lancia incantesimi è morto subito. 10. Lo uccidi. Sac. Meno 2. È rimasto uno solo. Vai, sta. Beh, potremmo catturarlo. Beh, in realtà potremmo catturarlo davvero. Sì. Vai, faccio apparire. Gli faccio sentire la voce della notte oscura che gli dice: ormai è inutile, ma se poggi l'arma, loro sicuramente potranno venire dalla nostra parte, se gli mostri quanto possiamo essere potenti lasciando la tua arma a terra. Okay. Non ha molto senso. 4 più 5, 9. Lascia cadere l'arma. Vabbè, niente, lo catturiamo male. Vero, Barbara? Prendilo. Diciamo che possiamo accettare la sua resa. No. Sì, io direi che prima lo blocchi, perché poi dura poco sta roba. Va bene. E poi io non accetterei la sua resa, ma... basta. Ma hai una sciagura? No, io ne ho due. Anch'io ne ho due. Perché ho preso quella di Kappa. Vabbè, prossimo zio. Certo. No, Kappa ce l'ha una però. L'ha usata subito. Gli ha segato l'ascia. Ah, giusto, vero. Giusto. Mi getto su di lui a mo' di pelle d'orso. Lo incaprettate. Come? Termine tecnico, incaprettate. Tecnico. E che facciamo? Chiudiamo? Chiudiamo così. Mentre avete ucciso e catturato i nemici. Missione compiuta. Va bene, la prossima volta parleremo con questo personaggio oscuro. Ok. Va bene. Davvero poco. Oddio, ci hanno iniziato che facevo... Sì, perché facevo 6, ho fatto 4-6. Beh, in realtà io stavo per morire, comunque... I due punti ferita, uno è venuto via per una sciagura. Hai capito, Barbara, che era tutta una scena per far capire che in realtà ero dalla loro parte. Un'interpretazione magistrale. Hai capito che non ti avrei mai colpito. D'altra parte sapevi benissimo che se ti avessi voluto colpire non sarebbe stato un problema. Certo. Esatto. Va bene, dai. Va bene. Chiudiamo, Betz, chiudi. Sì. Allora, avete visto il secondo episodio di Capricci del Fato. L'episodio si chiamava Casualità, ma la casualità era... Che giochiamo a Clotes. Che giochiamo a Clotes. E vabbè, pensavo ci fosse una spiegazione finale. Ma sì, è stato molto casuale. No, in realtà non è stato così casuale. Vedremo se lo riproporremo a breve. La spiegazione era che sarebbe stata una puntata a caso. A caso. Vabbè, allora è andata bene. No, siamo stati verso nord e abbiamo capito che il grande nemico di Barbara sarà il nostro nemico, forse un giorno per davvero. Credevo fosse Davide. Comunque, questo era... Io sono il nemico. Va bene. Avete visto appunto... In realtà secondo... hai tutti i requisiti per il super cattivo, tu. Io? Sì. Perché? Inganna la gente, fa credere... Ho i capelli lunghi, un ego spropositato, faccio così con le spalle, avanti fa credere agli eroi cose che non sono vere. Ci sta. È vero, però tipo è stato, cioè, mi, diciamo, faccio di solito credere una cosa e poi il contrario nella quella dopo, tipo l'occhi dei poveri, potendo me stesso in primis. Va bene, allora ricordiamo che ci potete seguire su Facebook, pagina Tycoons and Dragons, sul web, ovvero il blog, che è ribgdr.wordpress.com, sul podcast, che è quello di RIGDR, dove trovate tutte le nostre avventure, come quelle di Urban Heroes, sia di Unstructured Heroes sia di Zeroes, e anche altre cose tipo Star Wars, ovvero Petrolieri Spaziali, e lì trovate un po' di tutto, lo trovate sia su iTunes sia su Player FM e altri posti, che altre, vabbè, metti altre piattaforme, altre piattaforme che ci hanno individuato come un podcast di livello. Certo. C'è anche la pagina Facebook, ovviamente, RGDR. E breaking news, a breve inizierà una nuova serie. Breaking news, stiamo lavorando, barra sto lavorando, facciamo finta di lavorare, a tornare a quello che era la nostra origine, ovvero Tycoons, voglio dire Dungeons and Dragons, e con la, con la versione .5, con cui noi abbiamo in realtà già giocato, ma non, all'epoca non eravamo così social, per cui in realtà avete solo qualche episodio. Era su ancora Facebook, l'epoca in cui eravamo solo dei ragazzi che giocavano, solo dei ragazzi che non eravamo le star del web, sicuramente, del podcast, sì, che siamo adesso. Quando porca, ancora la polizia non ci ricercava, esatto. Oh, porca, o se ci ricercava era solo in gioco. Oh, e porca troia. Solo qualche episodio di A Caccia di Draghi, che era l'avventura che facevamo preparata con Master Katta, su qualche episodio sulla nostra pagina Facebook. E stiamo lavorando a una nuova serie su Dungeons & Dragons, non la vedrete necessariamente così presto, perché dobbiamo esserci più o meno tutti, e come avete intuito dal party di oggi, molto limitato in 4 persone, non è così semplice in questo periodo. Però, vuol dire qualsiasi cosa, tanto non ti stanno ascoltando. È vero, e sì, loro sicuramente no. E entro la fine del mese, però speriamo comunque di iniziare. Floridi! Detto questo, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ringraziamo. Basta, no, ringraziamenti cosa abbiamo fatto? Taglia, basta. Ringrazia Claudio Serena. Claudio Serena per averci dato questo gioco con delle schede così piccole, allora, che, allora, che non rappresentano un problema di spazio. In effetti non sono Io non ce l'ho neanche, io sto giocando con questo. Ma in realtà il gioco è comunque per noi è positivo. Questa è la mia scheda. Sì, vabbè, te è un quadernino con delle... Sì, non si sa cosa ci... Neanche lui sa cosa c'è scritto. Ma la scheda è essenziale, ma bene. La scheda è essenziale, assolutamente. No, diciamo che comunque è un gioco che premia molto, secondo noi, un po' l'iniziativa, la fantasia, quindi da questo punto di vista ben venga. E infatti probabilmente proveremo a fare anche altri episodi più avanti. La prossima settimana penso che proveremo a fare, adesso parlerò con i miei colleghi, una sessione di Urban Heroes. Non è la domenica? Domenica Urban Heroes. Ottima osservazione. Noi sappiamo già quando è. Domenica, 14. Pomeridiana. Domenica 14 alle 14. 14 insieme 14. Alla Premier League andiamo in diretta noi con Structured Heroes, con il 17° episodio. 14 alle 14. 14 alle 14, esatto. E questo è l'appuntamento che vi diamo, e poi per il resto vediamo un po' come procede. Ma in linea di massima. Il titolo è From Perry Sweet Love. Molto bene, va bene. Grazie di averci seguito e alla prossima. Ciao, ciao. Petrol saluti. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Si è bloccato tutto, no? Beh.